ci hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito? Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto. Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai. Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi è che sparava cazzate a manetta. Minchia, l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Zanzare marijuana, oh oh oh, zanzare marijuana, oh oh oh, zanzare marijuana, oh oh oh. Ma che cazzo di roba mi avete dato, brutti stronzi? Mi sta girando la testa, vedo lampi negli occhi. Ma che roba era quella? Roba tagliata male per caso? Che cazzo era? Ma che cazzo di roba mi avete dato, brutti stronzi? Zanzare marijuana, oh oh oh, zanzare marijuana, oh oh oh, zanzare marijuana, oh oh oh, zanzare marijuana, oh oh. Viva la zanzara, viva la zanzara, ciao Cus. Voi propagandate la droga, siete due spacciatori, mascalzoni, delinque, andate a far il culo. Finché ci sarà gente che va a comprare la droga, ci saranno sti negri che la vendono. Amici, siamo qui di nuovo a commentare le becere illazioni di Cruciani e di Mughini. Dobbiamo fare un incontro a Piazza Plebiscito e fare un video contro questa gente. Dopodiché, giù di querele! Giù di querele! La gente deve pagare, la gente deve pagare, e con il sangue, la gente deve pagare, pagare. Dopo ieri sempre più convinto che Parenzo voleva essere là con le sardine e i toscani per fare una di quelle orge fra finocchi di merda che si inculavano, no? Droga, queste cose così, perché sono tutti questi, drogati e froci e ricchi soprattutto. Spero che se Salvini sarà al governo gli levi tutti i soldi che hanno e devono fare i barboni per strada, ste merde rotte in culo. Finalmente si è capito che quello lì è un pagliaccio. Uno che gira con il fez in testa è un pagliaccio. Ma quale contraddittorio? Con un clown. Con un clown. Con un clown del circo. Perché voi andate a studiare la storia. Che la storia dice tutt'altro. Mussolini, tu che sei un ebreo, ok, Mussolini ha salvato tanti ebrei. Tanti ha salvato. Sui treni li salvava. Lasciamo perdere questo. Che c'entri i frocioni? Scusa, non ho capito che c'entri i frocioni. Adesso ce l'hai pure con i froci, sai? No, non è che c'è con i froci, perché io, per l'amor di Dio, non faccio quello che cazzo ne voglia. Faccio quello che cazzo a me. Ma non ho capito, è un modo di dire, froci, non ti inculo. E come cazzo lo vuoi, Cruciani? Non fai le pucce, non mi rompere il cazzo. Mi hai chiamato, non mi rompere il cazzo. Siete delle merda. Se vuoi un confronto a quattro occhi, chiamiamo un confronto con Pollegato, con me, che con altri. E parliamo, ci fai parlare, capito? Andiamo anche una trasmissione, c'è un problema. Ma fai il culo, te fatto passare in parte. Andate a fare il culo per il pezzo di merda tutti quanti, stronzi di merda. Abbiamo detto tutto mi pare, no? C'è un po' di rabbia, va, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Lo diciamo qui, fuori dal coro, sì? Perché altrimenti non ve lo dicono. cos'è che non dicono? Cioè non è che la gente non parla. A me bastano questi pochi minuti per mortificarmi. Sono disilluso del mondo quando poi esco da qua e incontro ad esempio i presidi che in prima linea ad Ostia lottano contro il degrado, i presidi delle scuole. Ma chi se ne frega, che lottano contro il degrado. Ma mi posso preoccupare dei presidi delle scuole? Entro qua alle 18:35 e vengo assalito dai brividi, da quello che sento, dai brividi. E allora devo chiedere scusa. Ripeto, questa è l'unica trasmissione in cui vengono rimandate in onda le voci dei conduttori della stessa trasmissione in altre trasmissioni televisive. Esatto. Adesso è la volta di Parenzo, che questa mattina ha battagliato all'area che tira contro un signore sulla di Fratelli sette, diciamolo, sulla pregiatissima La Sette, governata da Mirta Merlino, soprattutto da Ciro Caio. Guida, aspetta che mi alzi in piedi un attimo, scusa, non vorrei che si fosse piaggeria. L'azienda è magistralmente guidata. Guarda nello schermo, l'azienda è magistralmente guidata da Urbano Cairo. La trasmissione in oggetto, dottore, la trasmissione in oggetto è magnificamente gestita dalla signora Mirta Merlino. Abbiamo fatto la cosa completa. Marchettina completa. Avanti. E sei entrato in conflitto con un signore di Fratelli d'Italia. Non è un caso. Signor Dalmastro. Anche, però si inizia così. Parenzo, un'altra emissione. Questo era il tweet ai noi, però lui l'ha tolto. Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano antivirus. Ma lei non fa il saluto romano, no? Lei non lo fa il saluto romano. No, io quando trovo una donna come lei l'abbraccio e l'abbraccio. No, ma lasci stare gli scherzi, lei non lo fa il saluto romano. Cioè, tipo con Parenzo che fa invece, per capire? No, se lui fa il saluto romano. Parenzo fa il provocatore a vita. No, a me se uno mi fa il saluto romano lo mando a fare in culo in 40 secondi, primo. Secondo, la questione è molto molto seria. In realtà. No, no, ma proprio in 40 secondi senza passarla via. Poi hai ripetuto la solita cosa. Se la russa avesse detto sta roba in Germania, l'avrebbero portata in caserma. Solita, l'ho detto in anteprima ieri da te. In anteprima da te. Ho detto in anteprima. Ieri ti ho dato l'esclusiva di questa ragionamento. Senti, conflitto con Dalmastro. Su questi temi è sempre molto scalpitante Parenzo. Io credo che ad alimentare fascismo o antifascismo siano questi atteggiamenti alla Parenzo. Quella è chiaramente una cosa, peraltro, che ha peraltro anche disconosciuto la russa. Una battuta infelice. Peraltro si tratta di una battuta infelice, non ne farei una questione di fascismo, antifascismo, apologia di fascismo oggi, dato che i problemi sono ben altri. Posso dirti una cosa? Hanno ragione Dalmastro, la Russia è questa. Ha fatto un tweet totalmente innocuo. Se non stringete la mano, fate il saluto romano, c'è il braccio teso. Ma è una puttanata. Ti sei incistato su questa cosa. Capisco la volontà di polemica, va benissimo. Però non ti puoi. Cioè, comunque continua, lo scontro continua con questo Dalmastro. Quando il tuo sindaco partecipa, ad esempio, ad Ascoli a una cena per ricordare la marcia su Roma, per ricordare la marcia su Roma, con tanto di menù fascista con fascio littorio, quando vedo i manifesti di Fratelli d'Italia in cui si parla di usuraio riferito al finanziere Soros, e ora te lo faccio vedere, tenetevi i soldi degli usurai, la nostra forza è il popolo, usando il classico stereotipo della campagna degli anni 30 in cui il banchiere è per forza ebreo e per forza usuraio, quando si fa tenetevi i soldi degli usurai, è un finanziere, non è un usuraio. Ma non ricominciare a fare il falsario come hai già fatto con Giorgia Meloni nel tuo libro. Come Lotti sei andato all'attacco di Dalmastro, che però è andato alla controffensiva, la controffensiva di Fratelli d'Italia. Calvo, sei sempre il falsario. Titolo, dove c'è scritto ebreo? Dimmi dove c'è scritto ebreo. La cena che avete organizzato. No, io ti ricordo che tu sei un falsario. La cena che avete. Cioè, allora, dove c'è scritto ebreo? Leggi che cos'è dove questo. C'è scritto ebreo? Leggi questo. Leggi Mirta Merlino. Leggi Mirta Merlino. Che cos'è questo? Che cos'è questo volantino? La dottrina del fascismo. Sì, un convegno. Dove c'è scritto ebreo su Soros? Un convegno. In cui c'è Fratelli d'Italia, passaggio al bosco e azione studentesca. Perfetto. Ma io vorrei sapere dove c'è scritto ebreo. La dottrina del fascismo. Però posso dire la verità, in questo caso hai ragione tu, eh? Perché cioè, su questa cosa qui hai ragione tu, non è che quello si può nascondere, non c'è scritto ebreo. È chiaro che quando uno dice Soros è un usuraio, e poi Soros si sa che è ebreo, e dunque. Come non è un usuraio, peraltro, perché no, è un finanziario. Quando invece uno scrive Soros è un usuraio, meno male, dico, no, meno male. Oh, Soros fa i cazzi suoi. Soros è uno che vuole guadagna su tante cose. È uno speculatore. Ma anche tra un fondo di miliardo per la principalmente scuola. È uno speculatore. Bisù è uno speculatore. Non lo fa benissimo. Più, ma non lo fa più. Vabbè, lo faceva all'epoca. Ha destinato un miliardo alla scuola, alla Open Society Foundation. Ma se uno fa lo speculatore, ma non si deve vergognare a fare lo speculatore. Detto che ne sai che non investe più soldi? Che sei dentro la testa di Soros? Lo so. Sai tutte le società di Soros? Quello c'ha le mani in pasta in una marea di società. Li ho sentito i suoi più stretti collaboratori. Sono in contatto con la fondazione. Ma non investe più lui. C'ha 90 anni, dove investe? Ha 90 anni. Ci sono i suoi figli, le cose. Ci sono i suoi. Vabbè, ma non c'è niente di male, io lo dico. Ma non c'è niente di male se investe. Non c'è Paolo Mieli qui che non lo fa vedere fascismo. Però quello di prima, dove ha detto che prima noi abbiamo scritto ebreo Soros, no, non lo fa vedere usuraio. Perché essendo un falsario, ma sapendo di fare il falsario, scusami, non è che rispondi nel merito. Scusami. Rispondi allora, tu nel merito, dove c'è scritto ebreo? Ma non fare lo stereotipo. Non fare il topo Gigio Mannaro con me, dimmi dove c'è scritto ebreo. Guarda, guarda, sì, perché Gigio Mannaro, soldi degli usurai. In tutto questo, caro David, c'è gente questa sera che si presenterà davanti all'Ariston a Sanremo con il rosario. Mamma mia. Con il rosario a pregare, perché lì c'è il diavolo e c'è il pericolo di blasfemia. Senti questa. Praticamente noi ci presenteremo al Festival di Sanremo. Vabbè, allora? Noi chi, direte voi? Sì, beh, certo. Noi i cinque sassi, lo scudo della croce e l'arma del rosario. L'arma abbiamo del deciso rosario. Di scegliere questo nome per farci, come dire, conoscere come associazione. Quindi noi saremo a Sanremo per dire no alle blasfemie nel mondo della musica e nel mondo culturale. Ma quali blasfemie? Non c'è nulla, non c'è nulla di blasfemo. Comunque ragazzi, tutti noi ricordiamo l'intervento ieri di Oliviero Toscani qui alla Zanzara, in cui ha attaccato tutti, ha attaccato tutta la destra, ha detto che la destra è cafona, che non sanno un cazzo, che non sanno, cioè ignoranti, beceri, buzzurri, fascisti del cazzo, ne ha dette di tutti i colori. Ha chiamato Porro un drogato di scemenza, prima ha detto che è drogato, poi ha detto drogato di scemenza, poi ha attaccato la signora Maria Giovanna Maglia, eccetera eccetera. Quando io ho chiesto al signor Toscani, scusami, amico mio, ma mi dici una proposta che hai sentito dalle sardine, da Santuzzo, San Cazzo? Hai parlato con per quattro ore, li hai ricevuti per ore e ore in inglese. Dimmi una proposta. Le proposte non esistono. Siete come i geometri. Senti, senti, senti. Dimmi una proposta che è uscita fuori, ma dimmene una. Non la sai, non te la ricordi. Ma vedi che testa da ragioniere. C'è una testa da ragioniere. Ma che insulto è? Da ragioniere, però, però poveri geometri, perché che ti hanno fatto? Ma perché ti misurano? No, ma misurano. Scusami, ma scusami, scusami se sono uno pratico. Ehi Cruciani, quando vieni a Venezia a trovarmi? Guarda che qui la frittella è calda e non parlo di pasticceria. Silenzio la vecchia! La Zanzara. Buon pomeriggio, mamma. Ragazzi, tiriamo fuori i rosari, forza! Zanzarosi? Giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Buon pomeriggio, mamma. Purtroppo io vi devo dare una cattiva notizia, è perché successo. È giusto che voi lo sapete. La cinese vicino a casa di mia mamma è partita il 19 di gennaio e dovrebbe tornare il 9 febbraio. Ora, con questo fatto che c'è, se lei si azzarda a tornare per qua, io vado dalla legge, perché sennò qua ci infetta tutti, perché qua proprio vicino a casa di mia mamma. Qua se lei viene e porta quel virus moriamo tutti. Purtroppo io ve lo devo dire, ragazzi. Ci infettiamo tutti se arriva una cinese qui. Mamma mia. Allora, devo dirti la verità, tu però, sì, però tu ieri, io non so se questi messaggi che circolano siano veri oppure siano delle fake, fatti così per scherzo. Dobbiamo salvaguardare i valori della società aperta, perché possono meglio resistere ad attacchi futuri. La migliore difesa è un contrattacco preparato con cura. George Soros. Tu sei uno che cita Soros, ti rendi conto? Tu stai citando Soros. Sì, è la Bibbia. Come ha detto Toscani ieri, ti faresti anche dare i soldi da Soros. Quando si ti faresti anche fare degli assegni da Soros. No, magari no, perché io faccio un altro mestiere, faccio il giornalista, dove non mi faccio pagare. Meno male. Ma dove mi faccio pagare? Ma è un uomo nell'elogio della società aperta che dice: musica per favore. Musica per favore. Quando si hanno potere e privilegi, si ha anche la responsabilità di agire sulla storia e di farlo nel modo giusto. Ci vuole un'appassionata chiamata alle armi contro l'autoritarismo, il nazionalismo e per la libertà. Ma che cazzo vuol dire? Che cosa significa difendere la democrazia oggi? Quali pericoli sta affrontando lo Stato di diritto? La visione che ci offre George Soros è quella unica di chi sa di essere il nemico pubblico per eccellenza dei sovranisti e populisti di tutto il mondo. Mamma democrazia, elogio della società aperta. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. In tutto questo, ieri mi hai scassato i coglioni, a tutti dicendo che c'era stata la sassaiola contro i cinesi a Frosinone. Sassaiola contro i cinesi a Frosinone, che non c'è mai stata. No, no, però io ho preso la notizia, non è che me la sono inventata. L'hai letta sui grandi quotidiani online. Sui più grandi e importanti quotidiani italiani. Però non c'è mai stata questa sassaiola contro i cinesi. Allora, nessuna sassaiola contro i cinesi. Il professore che aveva dato la notizia per procurato allarme. Io, avendo letto la notizia che Repubblica.it e altri quotidiani avevano dato, sono caduto anch'io evidentemente nella trappola di questo professore, che nella è quello trappola. Che aveva nella trappola il Sgarbi docente contro Davigo. Sì, abbiamo capito, chiesto scusa. Sgarbi contro Davigo, vai. Tu non chiedi mai scusa adesso. Come no? Davigo è un uomo di destra. Travaglio è un uomo di destra. Buonafede non è nulla. Ora non è possibile accettare discorsi dopo che dal 92 700 milioni lo Stato ha dato a 27.000 innocenti. 27.000, 27.000, neanche l'Inquisizione, 27.000. Poi attacca il procuratore Gratteri. A me di questi discorsi sulla giustizia sai che non me ne frega un cazzo. Beh, ti posso male, dire, mandi in onda Sgarbi perché è divertente, attacca a sprombattuto, ma non me ne frega un cazzo. Sì, me ne frega naturalmente le cose, la prescrizione, per carità, tutta una discussione però comunque sentiamo Sgarbi, dai, contro Gratteri. Gente che perde tempo dietro teoremi politici, altro che magistrati, gente infetta. E quando Gratteri arresta 340 persone e ne liberano 90 dopo un mese, Gratteri deve andare in galera, non essere notato. Ha ragione Lupacchini. Poi esalta la Brexit, qui mi fa godere, Sgarbi all'attacco, viva la Brexit, senti. Guardando l'Inghilterra hai la sensazione di essere tornati alle guerre di indipendenza. È un paese libero, si è liberato dall'Europa nazista, fascista, comunista, eurista. Diceva il grande Auriti che un paese non è indipendente se non ha indipendenza monetaria. Noi siamo vittime dell'euro. Congelato costa 6.000 lire. Ancora costa 6.000 lire, ancora costa storia. Perché storia siccome ti hanno, ti hanno lire, fottuto stupendo in passato, perché un euro. Ma dai, ma poi va all'attacco. Comunque, da un certo punto di vista ha ragione, è una grande prova. Ma ecco, certo, ma non ecco sui 6.000 lire. No. Fatti pagare lo stipendio. Ma in Inghilterra sono dei fatti grandi. Fatti pagare lo stipendio in Inghilterra. Ma che me ne frega a me? Prendilo in lire da domani. Ma che me ne frega, lire. Mamma cara, senti, aspetta. Ah, magari, sì, ti voglio vedere. Con Sgarbone, tutte le case che hai, Sgarbone, le svalutazioni delle tue abitazioni, delle case. Ormai non si può più, lo so, però, senti. Continua a fare la battaglia, loro hanno la sterlina e la libertà. Noi siamo schiavi, abbiamo l'euro merda e abbiamo l'euro Europa di quattro balordi, da Macron alla Merkel. Ma che sei contro l'euro? Sei contro l'euro, Vittorio? Io sono contro tutto. Ecco appunto, toc toc, ci sta. A proposito di virus, sapete che i due a Roma stanno male, no? I due cinesi ricoverati a Roma, questo lo sapete dalla cronaca. Situazione drammatica. Signor Zecchi, signor Zecchi, ma noi non diciamo niente, meglio non dire niente. Ieri hai detto quella cosa su Frosinone che era una cazzata, dunque non dire nulla di definitivo. Da Repubblica. Non dire nulla di definitivo. L'ho appresa da Repubblica. Non come te, non come te, ma io non l'ho detta però, infatti non l'ho detta. No, perché tu le notizie che riguardano arroganti. No, infatti non era una notizia, era una puttanata. Senti Zecchi, senti Zecchi, professor Zecchi. Io con tutto il rispetto per i cinesi, ma non è che mi siano simpaticissimi. Cosa vuol dire? Per quelli che ho conosciuto io sono molto arroganti, hanno una visione molto imperiale della loro cultura e della loro tradizione. Oh, mica che con questo dico che gli sta bene, però insomma c'è una legge antichissima che la tradizione classica individua e si chiama ibris. Ed è quella che punisce la tracotanza. Beh, ho capito, ma non è che può essere che c'è il virus perché sono arroganti i cinesi. La tracotanza, colpiti signor dalla Zecchi. Ibris dell'arroganza. Professor Zecchi. Professor Zecchi, ma poi che come poi si dice fa che a non dire vale i cinesi arroganti? Che sono gente che ti dicono: dottore, involtino primavera, vuole caldo, gelato, fritto. A tutte le ore, giorno, notte, ballano pollo, mandorle. Ma che come si fa? Aspetta. Posso dire, senza essere tacciato di razzismo, che a me i cinesi, quelli che ho conosciuto, non sono simpatici? Ma cosa poi, io oltretutto, per esempio, il ristorante cinese non lo frequento. Ma sti cazzi! Ma è un casino, non tutti i ristoratori cinesi hanno invitato grandissimi questa sera, ma sti grandissimi cazzi, ma scusami. Ma perché se non vai tu non vai ai ristoranti cinesi? E sti cazzi! Massimo da Genova, la cosa incredibile. Massimo da Genova, dai. Buonasera. Dimmi, dimmi Massimè, dimmi. Per cortesia una domanda a Parenzo. Dato che come Parenzo dovrebbe sapere da giornalista, l'Africa è pullula di cinesi perché oramai sono attaccati al continente. Hanno colonizzato l'Africa, vero? Pullula di cinesi. Pullula di cinesi. Allora? E siccome la profilassi cinese lascia un po' a desiderare e quella africana non ne parliamo, allora? Diciamo questa commistione non potrebbe portare delle conseguenze che magari possono con i barconi portano anche il coronavirus. Guardi, amico caro, amico professore, gli aeroporti alla Malpensa e poi arriva un barcone magari di africani che hanno fino al giorno prima Massimo è preoccupato, caro Parenzo. Massimo è preoccupato. Lui la fake news pazzesca. Fino ad ora il virus si è diffuso grazie agli aerei, ma non dare informazioni scientifiche. Massimo è preoccupato dall'arrivo dei barconi. Per ora si è diffuso attraverso i viaggi aerei. Ma non dare notizie che già ne hai data una sbagliata ieri. Massimo da Genova è preoccupato con i barconi. Repubblica.it aveva dato credito a un professore che aveva denunciato il fatto. Massimo, sei preoccupato? Non ti dico che l'ho letto sul giornale. Sei preoccupato per l'arrivo dei barconi che possono portare Cruciani, come è noto Parenzo non sa un cazzo di Africa perché non c'è mai stato, quindi chiudiamo tutto, gli aeroporti chiudiamoci in casa, aeroporti, porti, uno che è malato la prendi, hai capito Parenzo? Massimo, non è che ci vuole Massimo, sei preoccupato per l'arrivo dei barconi? Potrebbero portare potrebbero portare il coronavirus. Dimmelo se hai questo timore, dimmelo. Io penso di sì. Lui pensa di sì. Fermi lui tutti. Pensa. E tu non gli dici niente. Nulla. E lui, fermi complice, tutti. Non gli dice fermi nulla. Fermi tutti. Bah, sai. Il segnale orario vi è offerto da... È ora di riscoprire il fuoco. Progetto Fuoco, 19-22 febbraio. Verona Fiere. Replica Sistemi è il partner software di centinaia di aziende in tutti i settori, come la Antonio Capaldo S.p.A., il distributore leader con 50.000 referenze per la ferramenta e non solo. Sentiamo uno dei titolari, Sergio Capaldo. La partnership con Replica Sistemi l'abbiamo da più di 15 anni. Ovviamente la logistica e la parte commerciale sono il nostro business principale, per cui abbiamo bisogno di partner per poter sviluppare questo approccio al mercato. Replica Sistemi. Replica successi. Anche nel tuo settore. Zucchetti Group. Sono molto felice di parlare in questa occasione e annunciare che lo stracchino 100 grammi nonno Nanni ha una nuova confezione. Grazie! Lo stracchino 100 grammi nonno Nanni è il primo stracchino in confezione biodegradabile e compostabile. La puoi gettare nell'umido e diventerà fertilizzante per la terra. Fai una scelta che piace anche alla natura. Nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. BNL, gruppo BNP Paribas per la sostenibilità. cosa si intende per investimenti socialmente responsabili? Una finanza sostenibile è possibile e le banche sono chiamate a un ruolo chiave nell'accelerare i cambiamenti verso un'economia più inclusiva e responsabile. Una risposta concreta alle sfide della società di oggi. Un vantaggio per il patrimonio personale e per l'economia nel suo insieme. È questo che BNL BNP Paribas chiama Positive Banking. Vai su radio24.it, entra in BNL per la sostenibilità e scopri tutti gli approfondimenti. La Zanzara. Gottardo non è nulla. Gottardo è un ammasso di carne che cammina su due scarpe e con una lingua lunga che non ha escretiriata già come parla. E pensa a quelli che ascoltano la tua musica di merda come si devono sentire. Vergognati, uomo di merda. Stai zitto, uomo di merda. Stai zitto, uomo di merda. Stai zitto! Uomo di culo, stai zitto! Taci! Almeno la mia voce non fa cagare come la tua quando canti, poveraccio che non sei altro! Taci, merda! Senti che voce del cazzo che hai! Si sta d'infama, mo, si sta d'infama. Senti, scusami, se tu lo butti fuori sta merda, vengo io a buttarlo fuori. Mi dà fastidio perché contro gli italiani. L'amore senza è un lungo meschino. Spargi solo odio e note del cazzo. Poveretto, che spargi solo odio e note del cazzo. Fraccialenzo. Ho appena visto il video di Gottardo che rovescia il tiramisù sulla testa di Polegato. È una goduria. A testa alta, schiena dritta, petto in fuori davanti ai fascisti. Non come Parenzo dietro al microfono. Non si indietreggia di un millimetro. Vai Gottardo! Oh, io su Just Eat l'ho cercato, ma non ho trovato il modo di avere a casa il tiramidux. Non è che si può chiedere a Polegato di fare una consegna a domicilio. Ciao Parenzo, ciao Gottardo, fascista più di Polegato. Complimenti, il giocatore è in ospedale, è alla frattura e lei non ha fatto nulla. Carucci, non siamo di Serie A, Carucci! Vai a fare il culo, è il tuo fratello! Ragazzi, che numero uno che era Gauccione, che numero uno assoluto. Comunque, a proposito di Sanremo, 34 che inizia... e casa c'è, Salvini c'è. E Meloni, degli altri solo poche tracce, che scrive il Fatto Quotidiano. Ma chi Mediaset, se ne frega? I dati Agicom, quindi la fonte Agicom. E allora potrei dire la che tutti l'Agicom. I conduttori della 7 sono targati il Partito Democratico. Sbagli, diresti dai, una cosa suo, molto offensiva sono... e spero che ti querelino per diffamazione. No, non dico, spero potrei che dire, ti querelino per diffamazione. Detto, potrei dire. Perché non è potrei assolutamente dire. No, così non sono iscritti è un'offesa ai partiti, però ai sono più tendenzialmente di sinistra è una gran... sono tendenzialmente di sinistra, ma chi te l'ha detto? Sono certamente antisalviniani, ma chi te l'ha detto? Ma non c'è niente di male, fanno domande, cose che tu non fai, non sono fanno domande, non sono antisalviniani, fanno domande. Vabbè, fanno domande e qualcuno ha il suo proprio punto di vista. Io non sono anti nessuno, io Junior, faccio domande, ma non dire cazzate, faccio dai, domande. Hai pubblicato faccio un libro contro i falsari Salvini, Meloni e compagnia cantante, porca puttana. Ricordiamo, ma veramente la faccia come il culo. Ricordiamo allora la casa editrice, per piacere. Sì. Comunque, per ripeto, piacere. Questa è l'unica trasmissione in cui i conduttori si infamano. No, si delegittimano anche. Cosa in genere i conduttori dovrebbero spalleggiarsi. No, invece si delegittimano. Tu non fai domande. Ti hanno querelato! Ti hanno querelato! Tu sei stato denunciato! Tu. E io, in più, io denuncio la mia trasmissione. Questo è l'altro grande paradosso che faceva notare... Natalia, giusto, dice tu sei lui, è incredibile che tu denunci quelli della tua trasmissione. Cioè, sì. E oggi direte, a pensarci, è una follia, è originale, sì. No? È una follia. No, sì, no, no, che intervengono, lei me l'ha fatto notare, sì. Lei dice, ma sì, come fai tu a denunci? Ragione, no, come al solito, ma lo diceva ragione. Con grande quasi curiosità. Quasi sempre ragione, sei, diciamo, la verità. Dice, quasi tu quasi. Denunci la tua trasmissione. Sì, cioè, non è mai accaduto al mondo. No, come se io denunciassi in onda, no, sarebbe impossibile. Ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione. E invece è così. Perché qui si può fare anche questo. Perché io prendo le distanze da alcune cose che qui vengono fatte e quindi denuncio. È sì, molto semplice, sì, sarà è... una cosa originale, no, per carità di Dio, non lo nego, comunque oggi ho con me Soros, ce l'ho qui, non so se no, lo vedi, sì, lo so, abbiamo capito vicino. Che hai Soros, voglio sì. Tenere Soros vicino, posso vabbè, tenerlo? Che palle con sto Soros, ti avessi dato vicino. I soldi, dice, capisco, no, manco i soldi ti ha dato, sicuro che non li ha dati. Junior Kelly, allora Junior Kelly, io fino adesso l'ho difeso moltissimo, solo che mi ha fatto girare i coglioni. Per quale ragione l'hai difeso Junior Kelly? No, ma perché avete la gente in comune, ma non sì, ma non conta niente, ma non conta nulla questa cosa qui, ma non conta niente, ti assicuro. Il si chiama procacciatore. Allora Junior Kelly ha detto che vuole riscriverebbe tutti i testi, non chiede scuse e fa benissimo da questo punto di vista, avanti tutto. Poi gli devo rimproverare una cosa, però l'intervista che ho letto oggi, credo su Leggo, una cosa di questo tipo. Senti, prima senti questo. Li riscriveresti tali e quali quei testi? Ma certo, assolutamente sì. Di tutta la mia discografia sono orgoglioso. Non rinneghi quello che hai scritto e sì. Ovviamente non chiedi neanche scusa. No, non chiedo scusa e non rinnego quello che ho scritto, perché quello che ho scritto esiste. Questo fa benissimo, avanti tutta, mai tornare indietro, mai pentirsi, soprattutto se uno è convinto di quello che fa e se uno non deve rimangiarsi nulla perché non ha commesso nessun errore. Secondo lui era una fotografia, quei testi molto violenti nei confronti delle donne, era una fotografia dell'esistente, di quello che accade. Lui non ha mai commesso violenze, non ha mai preso droghe, sostiene lui, ma noi dobbiamo crederci assolutamente, poi chi se ne frega. È molto più violento, dice lui, darmi del pedofilo, però poi arriviamo alla questione che mi ha fatto incazzare oggi. È molto più violento, secondo me, scrivermi determinate cose su Instagram dandomi del pedofilo, così, a caso, di quello che io ho cantato nel brano. Su questo non c'è dubbio, però Leggo oggi. Nel passato ho votato 5 Stelle, non lo rifarei più, adesso sardine tutta la vita. Ma così mi cadi, amico mio. Ma così mi cadi, Junior Kelly, amico mio, le sardine sono in nulla! Ma tu sei superiore alle sardine! Ma di che parli? Lì c'è il nulla, tu esprimi qualcosa! Esprimi del movimento, della vita! Qualcosa, un minimo! Questi sono in nulla, lo zero totale! Ti accodi pure tu a questo cazzo di sardine! Porca puttana, porca! Io vado ai matti, questi qua che si accodono a qualsiasi movimento nasca! Una cosa vergognosa! Questi sono in nulla, lo zero! Lo volete capire o no che ieri ho chiesto per 10 minuti a Toscani di spiegarmi una proposta che avevano fatto in 4 cazzo di ore di colloquio in inglese, in finlandese, perché devono essere snob, loro parlano in inglese. Ma che cazzo parla in inglese con Toscani? Parla in italiano? No, non rompere i coglioni. No, hanno parlato in inglese, va bene, d'accordo, hanno parlato in inglese. Una proposta, non ha saputo dire, dice che vogliono cambiare il mondo, vogliono un mondo migliore. Così ha detto Toscani ieri, ti giuro. Vabbè. Vogliono un mondo, ce l'abbiamo sto pezzo di un mondo migliore? Non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Sentiamo, sentiamo sta cosa, che è incredibile. Vogliono un mondo migliore. Migliore, ma vaffanculo! Ma perché? Ma è brutto sognare su una cosa diversa. Dai! Ma scusami un attimo, Solino, sì, mi dici una proposta, una sola? No, no, allora, buona proposta è già quello che sono. Ah, quello che sono, il fatto che sono contro Salvini. E non a caso hanno 14.000 giovani che sono corsi in piazza, vuol dire che c'è una proposta. E quale sarebbe? Andare contro Salvini? Essere no, contro Salvini? Cazzo. Esatto, una proposta super buona. Su, ma dai, dai. Junior Kelly, pensaci bene, non ti fare trascinare da questa moda, le sardine tutta la vita, solo perché Salvini si è scagliato contro di te, che cazzo te ne frega di Salvini? Lascia perdere queste sardine del cazzo. Vabbè, incredibile. Che peraltro oggi bisogna riscontrare anche la scissione dell'atomo, amico mio, questo è interessante. Sì, le signore sardine che si dividono. Da una parte alcuni che si incazzano perché hanno fatto la foto con Toscani. E invece io non mi incazzo, non me ne frega nulla, possono fare la foto con chi vogliono. Vogliono frequentare Benetton e Toscani, frequentassero i Benetton e Toscani, chi se ne frega. Sono andati lì a parlare. Quando uno parla e diffonde le idee, per me va benissimo. No, non me ne frega nulla. Però se sono imbarazzato andati... una parte alcuni, del movimento, alcuni evidentemente. Dice sì, no, i Benetton, sì, i poteri forti. Ma tu ti rendi conto? Un altro di Roma, tale Ogongo, leader delle sardine di Roma. Fai presunto... solo il nome. Sì, non mi non fa ridere, me, Ogongo mi fa ridere. Quando sì, lo pronunci? Lo pronunci con scherno. No, non mi fa ridere Ogongo. uno delle sardine e tu di Roma che si chiama Ogongo. Che ti e do tu, se tu andassi in Africa, ma non li sto insultando. Direbbero Giuseppe. Comunque, questo Beppe, signor Ogongo ha detto: ma no, non possono fare i capetti questi quattro. Cioè, già si dividono al loro interno. Già vabbè, si dividono. C'è un dibattito interno, una dialettica interna. Le sardine che... si dividono, amico mio, ma non è straordinario la scissione delle sardine. Ma non ti fa. Io dico, ma come hai fatto a credere in questa roba? Ma io non qua? Ho creduto in nulla, come io li ho raccontati, Massimo li ho Roma. Analizzati, senti, ho cercato di questa capire. È una missione di opinioni, perché non ti nascondere dietro. Mi, hanno mi ha divertito Roma, molto il fatto che siano riusciti a portare in piazza dal molto. Nulla 80, 90, 100 mila persone. Qua, questo... fammi sentire la gente. Massimo, dai, Massimo. Massimo. Sì, eccomi. Buonasera, ci sono. Dai, forza, su. Dunque, io mi chiamo Massimo come quello di Genova. Lui è preoccupato perché in Africa brulica di cinesi, sì. E vuole fermare i barconi. Io so per certo che Genova brulica di cinesi. In che senso? Vorrei che Genova è pieno di cinesi e vorrei bloccare Genova. Sì, ma non ho perché capito, sono ma... molto preoccupato. Sì, ma è una cosa ironica la tua o sul serio sei preoccupato che è pieno di cinesi a Genova? No, perché lui si preoccupa che i cinesi stanno in Africa, io mi preoccupo che i cinesi stanno a Genova. Tu dici, ovunque, quindi ovunque, facciamo un cordone sanitario intorno a Genova, cioè, dici, e blocchiamo chiudiamo tutti, anche, compreso Massimo. Dici, chiudiamo anche bloccare i cinesi. Ho capito, chiudiamo anche per esempio i quartieri cinesi, perché non fare un cordone sanitario intorno qui ghetto, a Milano, si chiamavano ghetti. Ma no, non poniamo limiti alla Divina Provvidenza, l'intera città. Perché? Andrea da Reggio Emilia, si chiamavano ho capito benissimo. Una volta, Andrea Ghetti. Da Reggio Emilia, vai Andrea. Ciao Giuseppe, ciao, hai mangiato il parmigiano? Parmigiano, sei tu quello che mi ha mandato il parmigiano? No, ancora no. Andrea. Ecco, gente che manda cose, come Checco Zalone, sì. No, gente aspetta, che ti regala oggetti da mangiare. Dimmi Andrea, che mi volevi dire però, oltre il parmigiano che mi hai mandato, mi avrei chiamato per qualcosa, no? Dimmi. No, ma avete chiamato voi. Sì, vabbè, perché tu avevi chiamato, dimmi, dai. No, io non avevo chiamato vabbè, niente. Vabbè Andrea, nei giorni scorsi, dai, forza. Ascoltami, no, ti volevo dire semplicemente questo, che tu a novembre, dallo scorso anno, avevi avuto in discussione qui riguardante il voto in Emilia, scusa se torniamo un attimo indietro, vorrei rinfacciarti appunto il pronostico, dato che tu mi dicevi che mi avevi apostrofato come il sociologo degli emiliani ed oggi... No, però Andrea, scusa, bravo, bravissimo, ti sei dimostrato il solito qualunquista, sai cosa? Per rincorrere la propaganda, non capendo nulla di politica. E ti ho sottolineato che l'Emilia fosse la terra dei fratelli Cermi, cioè, e mi hai risposto: ma la gente non frega niente! No, amico mio, io ho solamente, io ho solamente detto una cosa. Ti lascio no, parlare. Io ho chiesto. Io credo, per chiudere il ragionamento, ti prego. La gente, sollecitata invece dalla strumentalizzazione tua e di Salvini. Ma chi se ne frega? È passata sta roba. È morta, è finita. Avete vinto, chi se ne frega? Può darsi, ma è finita la storia ormai. Hanno votato 10 giorni fa, ma chi se ne frega? Poi c'è da dire però un'altra cosa che sono d'accordo con te. Che la sinistra deve tornare a fare la sinistra. Vabbè, ma non me ne frega un cazzo di questa roba. Vincenzo da Roma, vai a fare il culo. Vincenzo da Roma, dai. Vincenzo. Buonasera. Dimmi. Io volevo fare una domanda a David, con il quale solitamente sono sempre d'accordo, quasi su tutto. Sì. Aspetta un secondo, perché Lercio mi manda questa notizia. Sanità, in arrivo vaccino per gli ultra sessantenni che guardano Rete 4. Una notizia dell'ultima ora, eh? Vabbè, allora Vincenzo, dimmi. Allora, dicevo, sono sempre d'accordo con Parenzo, fa bene ad attaccare in certe situazioni sul discorso dell'antisemitismo, anche secondo me, anche perché secondo me la destra nell'ultimo periodo sta mettendo sullo stesso piano antisemitismo. A me non me ne frega niente di questa roba qua, di cosa vuoi parlare, Vincenzo? Domanda, no, non c'è domanda. Antonio De Piacenza, vai a fare in culo, Antonio De Piacenza, dai, dimmi. Volevo intervenire sul coronavirus. Dimmi. Perché ci dicono che la percentuale dei morti è il 2%, no? Dei deceduti. Però in realtà se noi facciamo, i morti sono 425 fino adesso, i guariti sono 635, la percentuale fa 40%. Ma su perché che cosa, i 20.000 scusa. Che sono ammalati non si sa se guariranno amore, o se moriranno. Amore mio, non mi appassionano le percentuali a me, non me ne frega nulla le percentuali, ma non è la mortalità del 40%, cioè il 40% perché? Delle persone che prendono muoiono, secondo te il 40%, che ne sai che il 40% che delle... so che io ma non sappiamo i numeri totali di quelli che sono quello sono i numeri ufficiali, sono questi, ma è ufficiali di che? Non c'è nessuna certezza. Non ci sarà certezza, ma la preoccupazione, se fosse il 2% non ci sarebbe questa preoccupazione. Fermo là. La Zanzara. Buonasera, buonasera Giuseppe. Mi sembrava di essere sul set di un film porno. Fatele più spesso questi collegamenti. Quali collegamenti? Con la Morellata. Con la Morellata, con chi? Con mio fratello, non ho capito. Luciani Parenzo, se dietro la storia del coronavirus ci sono gli Stati Uniti d'America, viva gli Stati Uniti d'America, i gendarmi del mondo che hanno fatto abbassare le ali al grande dragone cinese. Viva gli Stati Uniti d'America, viva, viva, viva. Siamo al top. Io lo so che non ce l'hanno il virus sti cinesi qua in Italia, però quando li vedo ce lo faccio apposta a spostarmi. Non lo so perché. Così si imparano. Perché sei un tu coglione. Sarai con me in paradiso oggi, e gloria a Dio! Perché sei un coglione. Questo è il punto fondamentale. Perché se uno si sposta quando vede un cinese è un coglione. Ma non è che lo dico, io capisco molte volte la paura, eccetera. Soprattutto delle signore, magari, o dei signori più anziani, delle persone più anziane che hanno queste paure. Ma va benissimo. In particolare quelli che guardano certe trasmissioni televisive, che magari hanno più paura di altre. Posso leggerti una grande massima? La fedeltà è per i cani. Gli esseri umani tendono a essere infedeli. L'infedeltà è un istinto che prevale sulla ragione e credo che la costanza sia invece l'unica fedeltà per un essere umano. Stai attento a questa differenza tra fedeltà e costanza. Sentire che alcune cose fanno parte della continuità della tua vita e quindi si è costanti anche se non si è fedeli. Uno generalmente è fedele per ricatto, magari fedele, magari sto parlando del partner, naturalmente, moglie o compagna che sia. Uno generalmente è fedele per ricatto, per paura, perché non vuole perdere la persona che ama. Ma non è istintivo, istintivamente non sei fedele, noi siamo come non siamo come i cani. Mentre invece la costanza è la conferma di una natura durevole degli affetti. Bellissima la trovo questa citazione. Cioè ci vuole costanza, la fedeltà è un'altra roba, la fedeltà è roba di cani, la fedeltà. Cioè la fedeltà è per i cani, ma nel senso buono della parola. Cioè la fedeltà, no? L'essere, il seguire una persona così per istinto. Dai. O no? No, uno dei nuovi protagonisti della vita di questi giorni, della comunicazione di questi giorni, è il presidente della Fiorentina Commisso. E perché mi fa pisciare sotto dalle risate, Commisso, è una specie di cabarettista assoluto. E, al di là del merito, è un signore che con questo suo accento mi colpisce. È intervenuto in questi giorni in un sacco di radio, anche locali, nella sua lotta contro la Juventus, eccetera. E ha attaccato pure il signor Lapo Elkan, che si era fatta una Fiorentina alla brace, non so che cosa aveva fatto, dicendo abbiamo cotto la Fiorentina. Questa metafora che riguardava il calcio, senti. Lascia stare a Lapo, Lapo, poveretto, se devo guardare i problemi suoi, ok? Non gli è piaciuta la battuta della bistecca? No, no, assolutamente. Ma era anche nemmeno spiritosa. Ma guarda, io non posso parlare per tutti, eh? Ok, ha problemi suoi. Adesso che cazzo c'entra i problemi di Lapo Elkan col fatto che quello ha fatto una foto, ha mandato una foto sui social con una Fiorentina cotta? Ma che cazzo vuol dire che ha problemi suoi? Dai, signor Commisso. Poi si è capito un po' di più perché questa, da dove viene questo astio nei confronti della Juventus. Senti, senti. Ti voglio dire che Gianni Elkan è venuto a incontrarmi con il suo figlio, mi ha fatto, ma tu come ex juventino come mai ti sei comprata la Fiorentina? Proprio al Fifth Avenue sulla Columbus Day Parade con Massimo Ferragamo che era il Grand Mag. Poi altro no, i soldi miei non mi hanno piaciuti e sono andato a Firenze. Beh, stupendo, cioè, si era incontrato con John Elkan dalla Fifth Avenue. Bello come la produce in inglese. Non ha voluto i miei soldi, non ha voluto i miei soldi. Poi gli arbitri, vabbè, questa cosa sugli arbitri italiani, ma sti cazzi. Io vedo gli arbitri e l'organizzazione degli arbitri come giudici. Sa quanto credo che ci sono dei giudici in America? E il giudice si sta sempre zitto, ok? E loro si devono stare pure zitti. Okay? Okay. Non è che c'è mia. Io devo fare il mio dovere di proteggere la mia Fiorentina, ma loro se fanno i veri giudici, i giudici stanno zitti quando succede questo. Cioè dice che praticamente i capi degli arbitri non devono parlare, non devono parlare perché sono dei giudici, come giudici non devono parlare, ragazzi. È incredibile, è incredibile. Che? Ma c'è un ok? Salute. Isolate, ok? Ok? Donato da Varese, vai, Donato. Ah, Donato, ah, che è successo? Che è successo? Salve ragazzi. Che è successo? Ragazzi. Cosa ti ha smosso? Ieri... Cosa ti ha smosso, caro Donato? No, ma ieri sera così ascoltavo questo Scani, quella larva di Muscalata lì. Sì, quella larva. Quell'essere che vale meno di niente, che addirittura vorrebbe portare qui i clandestini islamici, africani in quest'Italia, come se quest'Italia fosse... Toscani. Ma cosa dici? Toscani dovrebbe, con tutti quei qua, quelle foto di merda che mi hai volentato quando ero ragazzo, quelle foto di merda col suo amico e compagno di merende Benetton. Quelle foto che per me erano, ma tu non sei capace di fare niente. È uno dei più grandi pubblicitari italiani. È il più grande ricchione mentale del mondo. Ma che vuol dire? Toscani, se quel quadro, quelle foto l'avesse fatte nei paesi africani che lui tanto inneggia ai massimi livelli, quelle foto gliel'avrebbe conficcata nel culo e in bocca. Ma perché? Allora Toscani è un grande nemico di questo povero paese. Addirittura, è un nemico dell'Italia, tu dici? È uno schifo di uomo. Ma perché? Perché un nemico dell'Italia, secondo te, Toscani? Perché lui è un nemico dell'Italia, che lui se dovesse buttare, lui ucciderebbe tutta la Lega, la renderebbe al suolo per salvare un solo clandestino. Non lo sa che un clandestino solo becchi un angolo di strada, gli apre il culo in quattro parti. Mamma, perché quel porco demente schifoso, mamma, che io condanno chi lo fa parlare. Quell'uomo lì è un grandissimo nemico. Quelle fotografie quando ero ragazzo che mi violentava addirittura, ma con perché, il negretto e con il bianchino assieme, mi ha messo in testa che noi fossimo già razzisti. Ignorante, che non sei altro. Ah, tu dici che quelle foto lì sono un inno alla immigrazione. Quello non è un fotomontaggio, quello è una carta igienica. Sono delle foto meravigliose che fermano un istante. Sono delle foto che raccontano più di qualunque editoriale. Le foto di Toscani non rappresenta nemmeno una minchia di uno sciacallo. Toscani è un lungo schifoso che non merita niente. Prima di parlare degli italiani, dovrebbe pure il cazzo che c'ha dietro il culo di Benetton. Scusami, però al di là delle metafore, eccetera, due sempre molto gli colorite. Gli scatti di Toscani bloccano, sono degli editoriali. Toscani sono molto di più. Toscani è l'esasperazione del niente. Toscani, se fosse un islamico, andasse a dire delle cose contro gli islamici, lo ammazzerebbero. Ma scusa, ma perché? Qui in Italia si prende il diritto di organizzare addirittura manifestazioni con quei latrini. Ma quali manifestazioni? Li ha invitati nella sua fabbrica? Con quei fascisti delle sardine che hanno fatto schifare i pesci. Le sardine mi hanno fatto schifare i pesci. Ecco, intanto hanno vinto. Non hanno vinto niente. In Emilia Romagna hanno vinto, caro ignorantone. Sono dei criminali a piede libero. Caro mio ignorantone. In Emilia Romagna hanno vinto. Scusami. Hanno vinto come hai vinto tu. Tu puoi fare tutte le missioni della terra, ma sarai sempre un nulla. Sarai sempre la rappresentazione del niente. Scusami, Donato, voglio capire una cosa. Come mancava effettivamente dopo tanto tempo un tuo quadro delle sardine, una tua pennellata sulle signore sardine. Anche qui li consideri evidentemente, come Toscani, dei nemici dell'Italia. Mi sembra di capire. Sono nemici dell'Italia. Sono proprio dei nemici, proprio sono matricolati proprio come essere i nostri nemici, e della gente immonda che non sa nemmeno quei valori dove cazzo stanno, e allora non stanno nemmeno nelle mutande. Ma loro dicono però di essere, come dire, per l'Italia buona, per l'Italia che non urla, per l'Italia che ragiona. Sporchi razzisti sono. Ma perché assassini? Quando Salvini è andato a bussare il cito microfono. Io avrei fatto mille volte. Sofia ha fatto una grandissima cosa. Una povera donna alla quale gli era stato ucciso la moglie, il figlio direttamente con la droga. Beh, ha detto: guarda, là, c'è uno che spaccia la droga. Se mi ha detto: scusa, c'è qualcuno che spaccia la droga. Mi devo vedere se è vero. Avete sentito quella famiglia che ha mostrato in maniera chiara di non essere gli spacciatori? No, ma ho capito, amico mio, però non è che uno va a suonare al citofono della gente così. Non c'è nulla di male, Giuseppe, non c'è nulla di male. Se l'avesse fatto Bersani, no? Quello che ma non lo fa, ma non lo fa, signor Bersani. Che sta ancora in giro con quello, con quel figlio. Ma non lo fa, ma non lo fa, non lo fanno. Parenzo, diglielo tu che non lo fanno. Non vanno a citofonare. Questa persona qui non dovrebbe chiamare e molestare. Tu sei peggio di quelli che citofono, perché chiami qui, sei un citofonista pure tu, sei un molestatore. Chi è che me l'ha detto? Perché non sono usciti fuori? Perché non hanno fatto la trasmissione questi tunisini? Ma l'hanno fatto, sono andati. Guarda che dovrebbero citofonare al tuo citofono, ora ci devi dare l'indirizzo e dire: qui abita un coglione, qui abita un coglione, scusi, qui abita un coglione. Incazzato, è una cosa brutta da fare, però quando quel ragazzo mi è stato ucciso da un marocchino, al quale è stato ucciso perché sorrideva, non c'è stata nessuna ambasciatore marocchino che abbia detto: chiedo scusa agli italiani, ma chi sorrideva? Al quale gli sono spento la vita soltanto perché rideva. Ma che c'entra i marocchini adesso? I tunisini? C'entra, le sardine sono delle persone che dal mio punto di vista dovrebbero essere delegittimate, non devono andare in piazza perché sono i nostri nemici. Vai, Donà, sono ciao, i filo islamici del filo terzo millennio. Ciao. La Zanzara. Mi alzo alle 4:30 di mattina, 4 ogni mattina, e medito un'ora. Sono a San Mores che sto andando in barca e niente, ti penso, ti bacio forte. Lascia stare all'Apo, l'Apo poveretto, se devo guardare i problemi suoi, ok? Non gli è piaciuta la battuta della bistecca? No, assolutamente. Ma era anche nemmeno spiritosa. Ma guarda, io non posso parlare per tutti, eh? Ok? Posso dire una cosa? Allora, Commisso è un personaggio solo simpatico. Dire che non ci sono delle navi a St. Moritz. No, cioè, però St. Moritz posso... è in montagna, non capisco, sì, quando l'Apo posso parla dire una... di sì, barche posso... a St. Moritz. No, vabbè, questa è una frase storica di L'Apo, una volta che mandiamo spesso. Però Commisso, quando dice lascia stare l'Apo poveretto che ha problemi suoi, il povero l'Apo ha fatto una battuta, sì, anzi ha pubblicato, si è limitato a pubblicare sull'internet una foto con una fiorentina cotta, sì, dicendo che la Juventus si era cotta alla fiorentina. Adesso quello cosa c'entra? Divertente, che lo attacca, sì, dicendo no, ha problemi suoi, la droga eccetera, perché quello vuole lasciare intendere. Sì, Commisso, signor, no, brutto, Commisso, brutto attacco, dai, brutto attacco. Su, poi siccome passa per quello, no, cioè Commisso, no, il paisà che va contro la Juventus eccetera. Nicola Porro con noi! Numeri uno! Toc, toc! Toc, toc! Le Marche ci sono! Deficiente di Parenzo a St. Moritz! Ma dove? Ci sono i laghi! Ma che barche ci sono? Ma sono stato mille volte! Ma tu devi smetterla! No, diciamo subito una cosa! Diciamo subito una cosa! Io, se rinasco Nicola Porro! E invito tutti gli ascoltatori a seguire su Instagram... Quando nei giorni scorsi l'hai massacrato dicendo che si è venduto al sovranismo! No, ho detto che è passato da Antonio Martino e dalla società liberale ai sovranisti, è passato dai liberali veri ai sovranisti. Io seguo la Zanzara tutti i lunedì e secondo me devi sostituire Parenzo con Piff. Come no, per carità, no, mi farei due coglioni così, amico mio. È peggio di Parenzo. No, ma Piff, però Piff non è manco simpatico, ti fa venire due palle così, almeno questo Parenzo ti fa divertire. Questo è vero. Però è vero, Porro è passato dai liberali, da Antonio Martino ai sovranisti, a Orban, da Martino a Orban, da Martino a Orban. Allora, ma io voglio bene a Porro. Sentiamo subito, siccome dobbiamo fare la Santa Alleanza contro gli snob. Ultima cosa, ricordatevi questo, a Milano si diceva: laddove c'è una Porsche gialla lì, bravo, c'è una festa e Nicola Turani. Porro Turani, no, diceva, è un locale fico, certo, Turani, io sono ancora orgoglioso e amo Turani per questo, esatto, uno dei pochi pezzi buoni giusti. Allora ragazzi, voglio farvi sentire Toscani ieri contro Porro. A un certo punto gli ha dato del drogato, però poi ci ha ripensato, dice l'ho fatta troppo grossa, l'ho detta troppo grossa, e ha detto drogato di scemenze. Comunque sentiamo. Porro ti ha dato dell'ubriacone e del cazzone ancora, eh? Perché ubriacone? Su questa, su questa cosa qui. Porro, lui è un drogato, lo sanno tutti. No, drogato. No, allora, questo assolutamente no. Guarda, ti assicuro, io lo conosco da 20 anni, assolutamente no. Drogato no. Anzi, è un grande sportivo. Esiste ormai un'informazione che è diventata una roba da van spettacolo. Da i talk show, dici? Tutti i talk show. Sì, disastro. Ancora. Cioè, Giordano, Porro, tutti questi qua. No, ma Porro sa scrivere benissimo, peraltro. Pure del Debbio. Ma cosa sa scrivere, Porro? No, ha scritto dei bellissimi libri, Porro. Ma come no? Lui è una soubrette maschile della maschile. Lui è come Macario. A parte che magari non è che sia una cosa da buttare via, il signor Macario, no. Direi, Porro, no, Gianico? Cioè, non è una ma cosa. Ma l'ha detto molto peggio, perché ieri c'è la trasmissione, mi ha detto, guarda che ti ha dato il drogato, che peraltro, insomma, chi se ne frega. Però era, pensavo molto peggio, no, rispetto a quello che io penso di lui, è stato generoso con me. Perché sarò mai. Ma sì, beh, è stato generoso, io devo controllarmi, da toc toc, Toscani! Cioè, si è preso quel poveraccio del Benetton, che dovrebbe, secondo l'idea di Toscani. Sapete che cosa c'ha Toscani? Toscani pensava di stare come negli anni Ottanta, che se mettevi una persona di colore nelle pubblicità eri fico, se mettevi un magrino eri fico, se mettevi uno coi ricci eri fico, e ha preso le sardine per rendere fico Benetton, non capendo che l'ha reso più sfigato ancora. Io me la prendo ma con non Toscani l'ha organizzata apposta, dai. Ah, non no, è vero, Babbo Natale questo. Perché le sardine non sanno che cazzo fare, vanno lì nella scuola e non sanno che cazzo fare, e fai una foto toc toc, la foto che c'è, cioè Toscani che sembra già beve troppo, c'ha la panza, e poi c'è là il come si chiama Benetton che non se vede mai la foto. Sì, è vero, non può essere, ragazzi, non può essere a casa, ma l'hanno scattata loro, ti prego. Ed è fatta, no, con ma l'hanno fatta le sardine, la foto l'hanno diffusa le sardine, ma chi se ne frega, è tutto preparato, una campagna pubblicitaria di Toscani che pensava di rendere fico Benetton e non si è reso conto che gli unici che potevano difendere Benetton sono i liberisti di destra come me, a differenza di voi sovranisti, perché dice cazzo c'entra lui, se deve pagare facciamo un'inchiesta e vediamo. Invece in questa maniera ce l'ha reso antipatico, perché stanno facendo una pubblicità su Benetton per dargli un po' più di credibilità. Cioè tu dici il fallimento di Toscani, questa roba qua è stata il fallimento. Ovvio, ha sbagliato, doveva prendere me per fare la foto con Toscani, un sovranista come diceva Renzo, almeno si portava a casa qualcuno. Sì, ma le giusto, sardine sono l'emblema di quelli che pensano le cose giuste. Oggi la cosa giusta è che loro sono colpevoli, ma non riuscite a capire come è vecchio. Allora tu lo sai, però l'unico dettaglio è che la foto è stata diffusa dalle sardine stesse. Ma dai ragazzi, ha ragione Nicola su questo, è tutta un'operazione, è chiaro che è un'operazione, no? È un'operazione fatta da Toscani che ha preso. Ma legittima, Benetton, legittima, però cioè, non mica ovvio, stiamo parlando di criminalità, è una cosa legittima, dice vabbè, adesso mettiamo qui con l'emblema della novità, della bontà. Allora le sardine sono cascate dal tranello di Toscani. Ma non è un tranello, ma Santuzzo ragiona, secondo te? Santuzzo, San Minchia, come lo chiamo io? Santori, è il nulla, non fare è il nulla, fede dai, della zanzara, totale, Santori, lo dimostra questo caso, lo dimostra questo caso. Ma tu veramente cadi in una roba di questo tipo, puoi anche non sapere cos'è la prescrizione, ma devi sapere che non puoi stare a farti una foto con Benetton, ma lo devi sapere. Toscani è un ubriacone genio totale, ma vecchio, perché ha sbagliato, non doveva mettere le sardine là. Ti posso dire un'altra cosa? Allora, ieri ho provato a siccome dice che hanno parlato 4 ore in inglese, poi sta cosa che parla in inglese, ma parlate italiano e non rompete il cazzo, no? Poi certo, là dentro si dice abbiamo parlato in inglese, chi se ne frega che ha parlato in inglese? Parli in italiano se devi parlare, perché tra italiani si deve parlare in inglese? Ma comunque, insomma, hanno parlato in inglese 4 ore, ho detto a Toscani, scusa, me la dici una proposta che ti hanno tirato fuori? C'è una proposta per l'Italia, per la società, perché cazzo ne so, la legalizzazione delle puttane, come vorrei io, un'altra cosa qualsiasi, un'altra cosa normale. Sulla prescrizione, ma non solo sulla prescrizione, niente, vogliono un mondo migliore, mi ha detto. Non mi ha detto una cosa, hai capito. Ma difatti poi l'altra cosa che bisognerebbe combattere è questa cosa dei ragazzi. Quando senti i ragazzi ti deve venire il sangue al cervello. I ragazzi. Ma perché mai? Sì, perché ragione. Ma non sono ragazzi! David, io ho mandato le truppe, ho detto prendetemi sti ragazzi per vedere se viene un'idea. Sono solo vecchi come me, cinquantenni, sessantenni. Ma no, c'ha 30 anni, Santori c'ha 30 anni, 35. Ma loro 4 sono piazze piene di gente che non ha nulla a che vedere con i ragazzi. Ma poi chi se ne frega? Ma anche se fossero, no, anche se avessero 60 anni, che male c'è? Niente, che uno che 60 niente anni dice qualcosa, okay? Per forza ragazzo deve essere uno che propone delle idee. Ma perché? Perché il 60enne che è uno stronzo solo perché ha 60 anni? No, invece ma c'è quest'idea, certo. I ragazzi, depuriamo la coscienza, mettiamo Benetton con i ragazzi. Senti, un'ultima cosa, quanto ti ha fatto ridere la cosa della scissione delle sardine di oggi? Mamma mia, ragazzi, la scissione delle sardine è meravigliosa, perché quelli di sinistra criticano la foto con le sardine di Toscani, certo, e invece certo, quelli a Roma dicono questo Ogongo, non so come cazzo si chiama, il capo o leader Ogongo, vabbè, Ogongo si chiama Ogongo, ma poi chiama Ogongo, dai, come ma Nicola, tu ti puoi chiamare Nicola, scusa, non ho capito, io sono offeso dal fatto sei che sei di origine pugliese, ti chiami Nicola, quello si chiama Ogongo. Ormai vivo a Milano, vorrei chiamarmi Paolo, invece purtroppo mi chiamo Nicola, mi rode, ma da St. Moritz Nicola non mi fanno entrare nei locali. Dove vai tu? St. Moritz, in barca St. Moritz, che meraviglia. Ogongo dice non possono comandare quei quattro, ma ti rendi conto, c'è la scissione dell'atomo. Comunque su una cosa Porro sarà d'accordo con me, sulla difesa di George Soros, questo sono sicuro. No, sicuro. Che palle con sto Soros, no, guarda, sicuro, guarda, posso sicuro. Dire una cosa? Se sei un vero liberale, fammi sentire, fammi sentire. Voi progressisti che mi ascoltate, George Soros che ha fatto fallire l'Italia nel 92 diventando, ecco, io godevo, miliardario, quando c'era Soros che speculava contro la lira di merda, loro erano con Soros, sì. Io ero con Soros, bravo, come vedi? Lo trovo che pontifica su Repubblica parlando delle disuguaglianze, ma della democrazia liberale, parla della democrazia liberale, 2 miliardi di euro col Quantum Fund per uccidere i risparmiatori italiani. Io posso essere d'accordo con te, perché il liberalismo, il capitalismo, bravo. Ma dopo le disuguaglianze cosa mi dice? Dopo le disuguaglianze lui mi dice lui, l'uomo più disuguale di tutti, ci vuole attenzione nei confronti l'elogio della società aperta, finanzia ancora il dissenso, lui ma fa i cazzi suoi e basta. Soros mi sta simpatico perché ha fatto i miliardi col Quantum Fund, quello mi sta simpatico, e prende per non il la retorica tutto, no, lo... investe i suoi soldi per la democrazia, vabbè, buonanotte, per i cazzi suoi lo fa, per i cazzi suoi. Vogliamo noi liberali di destra che ogni miliardario sia talmente cretino di poter spendere i soldi che ha guadagnato nel modo migliore possibile. Vuole spendere i suoi soldi anche in borsette, lo facesse. Io preferirei in puttane piuttosto che nella società, e invece li spende per la società, per la democrazia liberale. Lo dico io, un'ultima cosa, immagino che sarai davanti alla televisione a vedere il festival, io zero. Certo. Io già mi aspetto queste rotonde. Certo. Una rotonda di Guidonia. Sono in una rotonda di Guidonia dove ho presentato in una sala con 60 persone mitiche. Mitiche in allora, pensa, allora posso dirti una cosa, sentirai domani la retorica di rottura di coglioni. Beh, lo guarderemo tutti su stasera, Rula, certo. Gebreal e le donne. Fermi tutti, a domani, ciao Nico, ciao. La Zanzara. Io sono d'accordo che non ci siano affatto elementi cogenti che sbattono in faccia a Salvini e dunque alla Lega. C'è un'indagine che è stata aperta, è stato preso il telefonino. Non è un'indagine, è un crimine. È un crimine. Ecco, non è un questo indagine. Termine appartiene è un crimine. A te. No, è un crimine. Appartiene sono a te. Indagini politiche di magistratura corrotta. Gradirei che tu non mi rompessi i coglioni. Non rompere i tuoi me. Testa di cazzo. Cerchiamo. Non rompere i tuoi me. Cerchiamo di. Testa di cazzo. Davvero? È imbarazzante parlare con la testa di cazzo. Calmiamoci tutti. Continuo oppure lascio perdere. Testa di cazzo. Lascio perdere. Non lasciare perdere, Vittorio, ti prego. I telespettatori italiani non meritano questa merda. Facciamo così. Non meritano questa merda. Facciamo così. Allora, vediamo insieme, così proviamo a calmare un po' gli animi durante il servizio. No. Proviamo. Vi prego, facciamo uno sforzo. Facciamo uno sforzo tutti e tre. Lo prendo a pedate. No. Per favore, sei un miserabile. Pagatela Berlusconi. Fermi. Allora, vediamo insieme, così proviamo a calmare un po' gli animi in durante il servizio. No, no, no, proviamo. Vi prego, facciamo uno sforzo. Facciamo uno sforzo tutti e tre. Lo prendo a pedate. No, no, no, no, no, no, no. Per favore, per favore. Per favore, per favore. Per favore. Okay. Allora, è un virus che si trasmettio di pipistrelli, capito? Supa l'uomo. Perché in Cina purtroppo sti porci si mangiano surgi, si mangiano pipistrelli e tutto cose. Addirittura alcuni dicono ci scappavo di laboratori cinesi sto coronavirus, capito? Quindi c'è può fuire sto virus che sto cane con animali è infettato ed è una polmonite, piglia i bronchi, come una specie di influenza, però è mortale per chi piglia i bronchi, capito? Per mo non c'è niente di niente, però io ti si ho già televisione, no? A Buriano, mi pare che si chiama, è uno di vaccino, no? Disse che in Italia ancora dice questo pericolo non c'è, però dice bisogna stare a letto e tutto cosa, ma non è che si trasmette chi vestiti o catuva o mangiò cinese, si trasmette tramite sputazza, capito? Tramite in contatto. Ma vediamo che ne esce. Mi disto chi da nave, che ni a Civitavecchia, Civitanova, Civitavecchia, che ni in ferma, troporto, perché ci sono 750 passeggeri cinesi e ne fecero calare da nave. Due casi di tassarsi che sono in India, anzi, ma ancora in Italia no. E mo vediamo, boh. La sputazza, Parenzo, la sputazza. Sì, è un editoriale, un lungo, lungo approfondito editoriale. Fermo, fermo, fermo. Quello che io vorrei far capire attraverso il rosario che reciteremo a Sanremo questa sera e la sera della cultura l'8 febbraio alle ore 18 è che Dio esiste, prendersi gioco di lui non paga e la Madonna ci indica la strada per la nostra salvezza, cioè ritornare a lui e pregare. Che c'entra con Sanremo il rosario e la preghiera? Ma io non riesco a capire ancora. Boh. Ancora non riesco a capire cosa c'entra. Cosa c'entra, ragazzi? Non riesco a capire. Ma anche tu stasera siete davanti al televisore a vedere il festival? Ma io vado per i cazzi, ma figurati, io vado per la. Come fai a sapere il paese reale cosa fa? Quale come paese fai a essere in connessione paese col quello paese? Che vede, non quello che. Cioè, quello che è di dietro il televisore, non quello che è nel televisore. Io me lo guardo. Davide stasera, da Milano. Alle 9, anzi, già chiudere prima. Non ho mai visto. Ho preparato una cena. Non ho mai visto Sanremo in vita mia. Birra, patatine, tutti i bambini, Davide, ci guardiamo al festival che è un rito della famiglia. Questi grandissimi cazzi, Davide da Milano, dai. Tu sei sconnesso dal paese? No, non sono sconnesso, semplicemente non lo guardo. Come farai a criticarlo domani se oggi non lo guardi? Sento dei pezzi quando mi interessa. Ah, sento dei pezzi. Sento quello e guardo che scrivono dei pezzi. In rete. Davide da Milano. In rete. No, no, se ho bisogno vedo, ma non devo fare il critico di Sanremo, per cui no, Davide da Milano. È interessante vedere questo fenomeno sociale molto importante. Ma che fenomeno sociale? Davide, dai, dimmi. Ciao ragazzi, no, una cosa veloce riguardo al simpaticone da Cantù che ieri parlava del cazzo nel culo, della merda, degli omosessuali. Sì, sì, sì, niente, sì, semplicemente l'ipocrisia dell'italiano medio che parla di cazzo nel culo quando è omosessuale, ma se gli guardi la cronologia dei siti che si guarda, la prima che cosa c'è è il sesso anale tra eterosessuali, che ma è la cosa più diffusa da sé. Ma poi qual è il problema? Non ho capito. Cioè, tutta non questa, c'è nessun problema. Tutta questa condanna, il sesso anale, ma che roba è? Ma, cioè, c'è chi lo pratica. pratica, c'è chi non lo pratica. Chi lo pratica? Sì, però quando il pisello lo infili nel culo della tipa, sì, allora calma. Non c'è bisogno per forza, senza che sia necessario, capito? Andare nella descrizione, come dire, tecnica. Su questo do ragione a Parenzo. Non è necessario. Cioè, io ho detto il sesso anale, tutti sappiamo che cos'è. No, non c'è bisogno per forza di andare con la descrizione, Davide. Ma non serve a nulla. Vai. Usa un'arma contro l'omosessuale, è proprio ridicolo. Ma quello è il solito Giorgio da Cantù. Ma sì, ma anche lui l'avrà fatto, probabilmente. Se non l'ha fatto. E poi, scusa, a tutto si può ovviare, naturalmente, anche in queste pratiche. Basta usare dei rimedi, insomma, delle protezioni. E dunque anche l'effetto, il famoso baffo messicano, com'è che si chiamava quella roba lì? Insomma, che tutti avete capito che cos'è. E ragazzi, si può ovviare con la protezione. Nicola da Fermo, vai, Nicola. Niente, Emiliano da Brescia, vai. Emiliano da Brescia. Ciao ragazzi. Dimmi. Niente, io parlavo più che altro del discorso della notizia falsa a Frosinone dei Sassi contro i cinesi. Volevo chiedere a Parenzo, ti sei sentito indignato ieri? Su che cosa? Sì, quando ho letto quella notizia su Repubblica, sì. Anch'io ero indignato. Oggi però si è verificato che la notizia è falsa. Certo, e infatti è stato denunciato il professore che aveva dato la notizia per procurato allarme. Ma vi indignate per poco però, cioè, aspetta, per poco. Dunque, poi? No, poi che è successo? Che Zingaretti, Buschini e tuttora adesso la pagina ufficiale della ministra Elena Bonetti ancora è convinta che la notizia sia vera, nessuno la sta avvisando che la notizia è falsa. No, non è che è falsa perché lo diciamo noi, perché lo dice la Digos, la questura di Frosinone. Sì. Cioè, questo bravissimo, è il punto fondamentale. Bravissimo. Non grazie è che ci siamo loro inventati noi che è falsa. No, questa no, roba no, qui. No. Cioè, lo ha detto la polizia, che è esatto, totalmente falsa. Non esiste nessuna sassaiola di turisti cinesi o di pullman di cinesi a Frosinone, perché tra l'altro uno doveva pure chiedersi, meno ma male, io non me lo sono chiesto. Male. Perché che allora, cazzo ci fanno i cinesi a Frosinone? Perché uno si deve pure chiedere. Ma dove ci sono dei cinesi che studiano? Ah, benissimo, allora sarà c'è l'Accademia di Belle Arti. Benissimo. Allora, il discorso è che praticamente questo professore è imboccato da una sua collega perché ha visto una chat tra cinesi e pare che la colpa è di Google Translate, che non ha capito che praticamente c'era stata questa sassoiata. Esatto. Che poi neanche Frosinone, a quanto pare, risulta a Roma, ma è ancora da verificare. Ma la domanda è questa, perché Parenzo dice sempre che i giornalisti e legge praticamente, l'AGI, l'agenzia di stampa italiana, allora? Sì, ha diffuso praticamente questa cosa come veritiera, senza verificare che la notizia... Sì, ma qui non siamo, noi non siamo i precisini, io non bravissimo voglio fare il precisino perché non me ne frega un cazzo, dico no, semplicemente sbaglia, che quelli che vogliono fare i precisini, invece, al contrario, contro le fake news, ieri ci hanno rotto i coglioni su questa cosa che l'Italia, in Italia ci sarebbe la caccia al cinese, quando invece è una puttanata, no, ma è vero, non c'è che alcuna ci sono caccia degli al cinese. Episodi... No, per fortuna, ma è vero che ci sono episodi, e questa radio lo testimonia, di gente che chiama dicendo quando io vedo un cinese mi giro dall'altra parte o scappo. Come? Lo dicono qui. Sì, d'accordo, qualcuno c'è certamente, ma non c'è la caccia al cinese. I governatori di Lombardia, ma Veneto, non c'è Friuli, la caccia al cinese, Giulia, in Italia chiudono le scuole ai cinesi che sono ma una cosa è Italia la paura, ma non c'è la caccia al cinese, non la c'è paura, la caccia al porta cinese alla caccia, poi sì, la paura porta alla caccia. Va bene. Emiliano da Brescia, no, Nicola da Fermo, non so chi c'è. Gabriele non da Genova, dai. Capire. Gabriele da Genova. Allora, a parte che il sesso anale, che tra l'altro è una contraddizione in termini, perché il sedere, l'ano, non è un organo sessuale, quindi dire sesso anale è praticamente una cosa che non ha senso, e a parte che il sesso anale è sempre una cosa sordida e sozza. No, non ho capito questa cosa, scusa, mi spieghi un attimo questa cosa, che cosa sarebbe il sesso anale? Non ho capito. Il sesso anale è sempre qualcosa di sordido, sempre qualcosa e di sordido. E perché dovrebbe essere qualcosa di, di sordido? Perché l'ano è fatto per espungere l'orifizio anale. Ma questa è fatto... una puttanata, chi lo ha detto? Ma chi lo sostiene che l'ano è fatto... anatomicamente, fisicamente, scusa. Ma chi te l'ha detto? L'ano è fatto per far uscire i rifiuti. Una volta si diceva dove vedo un buco mi ci infilo, no? Cioè, tra l'altro, per cui quello è un buco e come gli altri buchi... può essere quello utilizzato è un buco che è può fatto essere per far uscire dire. Ma chi lo dice? Ma chi lo sostiene? Lo dice l'anatomia umana. Ma questo lo sostieni tu. E invece qualcuno ha deciso di metterci dentro qualcosa. E allora che vuoi fare? Qualcuno ha deciso di metterci. Ho capito che tu sei un po' fissato perché hai qualche vaga tentazione. Ma io ti ma non c'è la vaga tentazione. Scusami, Gabriele. Però, no, no, però devi seguire il mio ragionamento. Ora tu dai per scontato, caro Gabriele da Genova, che quel buco lì sia utilizzato, debba essere utilizzato per forza per far fuoriuscire delle cose. Okay? E per la natura l'ha fatto per quello. No, amico mio, se c'è un buco, quel buco si può anche riempire. Non è detto che debba per forza essere utilizzato. Ma vedi che sto utilizzando delle parole molto soft, Parenzo. Cioè, certo, l'anatomia, certo. L'anatomia non è detto che sia per forza no, in uscita, può essere anche in entrata. E no, perché la conformazione, per come è strutturato il muscolo, l'anatomia di quella parte lì, è un'anatomia. Scusa, perché perché è un peccato, una cosa sozza, una cosa schifosa il sesso anale? Me lo spieghi? Perché poi, tra l'altro, se uno fa, come si dice, sesso anale, che tra l'altro ti dico una contraddizione in termini, perché l'anno non è un organo sessuale, quindi dire sesso o aggiungendoci una cosa. Ma che ne che sai non che, anale, ma che ne sai che non è un organo sessuale l'anno? Ma chi lo decide? No, no, no, perché il sesso è quell'attività che è deputata alla trasmissione della vita e si fa attraverso gli organi sessuali. Ma questo lo dici tu? Ma questo lo dici tu? No, no, lo dice la natura umana. Ma lo dici tu? Ma il sesso è fatto anche per divertirsi, essendo fatto anche per divertirsi. Certo, anche per divertirsi. E allora possono servire tutti i buchi. Possono servire tutti i buchi, amico mio. Allora se io metto un gomito nella bocca della mia ragazza, allora siccome lo metto nella bocca, se ti diverte, ti diverte. Ma perché se devi fare questa conversazione? Mi metto le dita nel naso e nell'orecchio, allora è sesso. Se uno basta mettere una cosa in un buco perché sia sesso, mi metto il dito nel naso e allora sto facendo un'attività sessuale. Guarda che allora, giustamente, come suggerisce la Corte, ovunque esistano delle terminazioni nervose, ovunque esistano delle sensibilità, tu puoi utilizzare il gomito, puoi utilizzare il mignolo, utilizzare. Allora certo, assolutamente, ovunque allora, ci sia. Ovunque allora si prova. Scusami, amico mio, però io ti voglio insegnare delle cose. Cerca di capire bene, caro ipercattolico, caro ipercattolico da Genova. No, c'entra, è la natura. Beh, umana, non è la natura, Gabriele. Tu sei uno che consideri i gay degli zozzoni. Questo è il punto fondamentale. No, ma poi ti volevo anche dire una cosa. È vero cosa o no che consideri i gay degli zozzoni? Dimmi. Ah, sì, considero i gay degli zozzoni. Questo è vero, d'accordo. Allora, però, se consideri i gay degli zozzoni, tutti i discorsi vanno a cadere. Perché sarebbero degli zozzoni? Perché se uno fa sesso, perché se tu comunque fai sesso anale con una donna, quantomeno tu sei sempre in quella dimensione della possibilità della trasmissione della vita umana. No, col sesso anale ti posso segnalare una cosa: se fai sesso anale con una donna, no, ma ti dico non è perché possibile. Ti segnalo questa cosa. Ma te lo dico perché quando tu non ho bisogno, quando tu sei a letto con una donna, mentre sei lì che fai sesso anale, magari ti può anche scappare anche un altro buco, come dici tu. Quindi se sei a letto con una donna, la possibilità della trasmissione della vita c'è sempre. Invece se lo fai con un uomo, e allora e chi se ne frega? Radice, ma quelli non e non lo vogliono fare, non vogliono trasmettere la vita. Non vogliono trasmettere la vita, qual è il problema? E allora è una sozzeria e basta, è una porcheria e basta. Ma è una quale cosa porcheria? Per un ma Parenzo, stai zitto, ma di qualcosa, sei a favore. Sono imbarazzato ma di qualcosa, da questo signore. Non consultare i giornali sono che ti sto vedendo. Parlaci, di qualcosa, sono ribellati. Imbarazzato dalla conversazione di questo. No, sono imbarazzato dai termini di questa conversazione. Ma non sono i termini, imbarazzato questo per signore, lei. È un sono signore. Imbarazzato. Non si può manco dire che è una conversazione del cazzo. Ma è anche una conversazione. Sono imbarazzato anche per lei che ha detto il suo nome, che si è fatto riconoscere, che ha detto delle cose incredibili nei dettagli, delle cose, la volgarità con la quale ha descritto un atto che molti fanno con gioia, piacere e amore, questo senza vero, essere etichettati da lei. Ma io non pratico lei, senta. Tu lo praticherai magari, no? Cioè che non c'è di male, non c'è di male nulla di tutto questo. Non pratico sesso anale. Ma non mi interessa questa roba qui nel merito di quello che faccio io, fa un altro. Trovo la discussione su questa roba veramente offensiva nei confronti delle persone che lo fanno e anche di quelle che non lo fanno. Quelle che non lo fanno dicono che termini parla questo, con che volgarità. Andrea da Verona, vai. Dimmi. Pronto? Dimmi Andrea, dimmi. Sì, Andrea da Brescia comunque. Da Brescia, sì, da Brescia. Bene. Ma sì, io volevo capire, volevo chiedere a Parenzo per quale motivo ci sarebbe da scandalizzarsi se i presidenti delle regioni del nord non hanno chiesto che i bambini cinesi che di rientro dalla Cina non vengano fatti per un po' andare a scuola, visto che abbiamo tenuto un italiano 17enne in Cina per qualche linea di febbre, visto che blocchiamo sulle navi le persone 750 di qua, 400 di là, per infatti non si capisce, non si capisce perché non si possa fare. Allora, i provvedimenti come lei sa, mandare i bambini nelle scuole dove ci sono i nostri figli, che io non ho niente con i cinesi, anzi fra tutti gli stranieri sinceramente forse i cinesi sono quelli che posso considerare quelli che mi stanno più simpatici. Perché gli altri invece, i senegalesi, che c'hanno i senegalesi? No, sto dicendo fra tutti quelli che mi stanno più simpatici. Sì, ce ne sono altri che mi stanno sul cazzo. Tipo chi è che ti sta sul cazzo? Cosa vuoi che ti dica? Ce ne tanti, guarda. Tipo che cosa? Come genia, diciamo, come etnia, come provenienza. I finti profughi tutti. I finti profughi. Fermoli. La zanzara. Sono a Cabarete, Repubblica Dominicana, sto correndo sulla spiaggia al tramonto e ascolto il podcast della Zanzara. Ciao Crucio, ciao Pare, siamo al top! Woo! La Zanzara. Dai ragazzi, ma siete dei cerebrolesi, ma Feltri stava facendo una parodia, stava dicendo una minchiata sul fatto di dire che non capisce chi violenta le donne, perché già hanno fatica a chiamarle normalmente, se ci metti anche tutta la fatica in più di doverle mimare eccetera con la su e giù, stava dando del deficiente a chi stupra le donne. Però apparenza, cazzo, tanto ci vuole qualcuno che ti insegna a fare no con un bicchiere per capire qualcosa, perché t'ha anche pes proprio un cazzo, te lo dico in bolognese da sardina, t'ha anche pes un cazzo. Sei talmente accecato contro Feltri e cazzi vari e Borgonovo che non riesci neanche a distinguere quello che dicono, perché parti talmente prevenuto, sei proprio stai proprio sul pisello, sulla punta della cappella, uguale. Schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, pezzi di merda, ci infettate anche il tutto, fate schifo, pezzi di merda. Resta il top, caro amico di Bologna. Se tu reputi normale scherzare sullo stupro, magari Feltri voleva dire quello che davvero tu hai percepito, caro idiota. Ma se tu pensi sia giusto e normale scherzare sullo stupro, io ti vorrei far incontrare alcune donne che hanno subito violenza e chiedere a loro se lo scherzo, come lo chiami tu, di Vittorio Feltri ha un senso. E per tornare a quell'altro imbecille che ha, perché le persone vanno chiamate col loro nome e cognome, amico caro, ha telefonato prima, non ricordo il nome, Andrea, Nicola, da Bari, Roberto, a Brescia, tutta sta gente che chiama, voglio semplicemente ricordare, e tu gli hai dato Bordone, gli hai dato Manforte, che le regioni del nord che hanno chiesto al Ministero della Salute di chiudere, lo sputtanamento in diretta adesso che arriva, dimmi, le regioni del nord, sì, che hanno detto le scuole, che i bambini che arrivano, hanno detto che i bambini che arrivano dalla Cina devono stare in quarantena. L'Istituto Superiore di Sanità ha detto una cosa che è il massimo organo tecnico scientifico, che cosa ha detto? No, perché sennò si scherza. Ma cosa ha detto? L'Istituto Superiore di Sanità, che è il massimo organo tecnico scientifico del paese, non io. Dimmi. Allora è quello. Cosa ha detto? È l'organismo. Le misure adottate per le popolazioni scolastiche sono quelle necessarie a tutelare la salute della popolazione, cioè quelle adottate dal ministro. Allora, Burioni, ti fidi dei Burioni? Ti fidi del professor Burioni? Sì, sì, assolutamente. No. Assolutamente. Cosa ha detto a questo proposito? E poi la cosa si chiude qui perché non me ne frega niente. Giusta la richiesta di alcuni presidenti di regione della Lega di avere maggiore attenzione prima di riammettere i bambini provenienti dalla Cina. Ma maggiore nella attenzione scuola. È un conto. Basta, è chiusa ogni discussione. Ma maggiore attenzione giusta, è un conto. Giusta l'attenzione di alcuni presidenti del nord. Scusami, ma l'Istituto Superiore di Sanità che ci sta si a fare? Si chiude qui la discussione. No, ma Burioni ha ragione. Non ha rimandatemi detto... in onda gli audio per favore di quello che ieri, per salutare la sua scarcerazione, ha fatto esplodere dei botti in una strada di Napoli nel quartiere Pianura. You'll call it on, but you never even get. Buonasera. Buonasera a tutti. In diretta da pianura. Per festeggiare la mia libertà. È arrivato a Baffone. Metti Baffone. Vai, vai, allo fuoco, però. Mica mettiti vicino alla batteria con questa macchina. Sono ben aria. C'è Sim, vai, va. Allo fuoco, no. È venuto il Baffone, vai, va. Vai. A che ti passava, che non faneva, te, te. A faccia chi mi va male. A faccia tutte lode. A faccia tutte lode. Mamma mia, straordinario. Ora, l'uomo che ha fatto questo, che ha sparato codesti razzi, è un signore a noi noto che si chiama Antonio. Si chiama Antonio. Questo signore, Antonio Fanta, è lo stesso che si scagliava qualche tempo fa, è uno che era agli arresti domiciliari, si scagliava qualche settimana fa contro il consigliere regionale dei Verdi in Campania, Borrelli, perché difendeva i parcheggiatori abusivi. Questo signore che è in galera per furto, era in galera, cioè domiciliari per furto. Io, possedendo il numero di cellulare, io una telefonatina gliela farei. Che dici, Parenzo? Oppure non è il caso, secondo te, di scomodare il signor Antonio Fanta? Che dici? Perfetto, perfetto. Che dici? Non so se è il caso di scherzare. No, dico perfetto, però non so se è il caso di scherzarci troppo. Perché perfetto. Questo signore comunque, dici? Cioè, è un criminale, insomma, sì, criminale, sì. Sostanzialmente. Ma tu forse lo lui forse ti stima, però, non credo, lo so, no? Vediamo. Ma secondo me sia naso. Pronto, Antonio? Bruciani. Come stai, Anto? Buonasera. T'ho chiamato per una cosa, amico mio. Ma come, sì. come ma ti vieni? Sei stato amico scarcerato. Mio, no? Sei stato non scarcerato. Ho capito? Dico, sei stato scarcerato e ti metti a fare i botti per strada. E dai. Allora, posso dire una cosa? Certo, devi dire. Certo. Allora, io credo che con tutti i problemi che ci sono a Napoli, no? Sì. Guardare una persona. Io non è che sono un camorrista. O uno spacciatore di droga. Io sono uno che è stato agli arresti domiciliari per un semplice furto. Ho capito, però. Beh, amico mio, che chi l'ha subito non lo considera ma semplice. Ma io non lo so però. Adesso. Quanti anni hai preso? Che pena hai avuto per questo furto di cui parli? Ho preso 4 anni. Quattro anni. Non hai rubato una mela, amico mio. Quattro anni è una mela. Va bene, però non era un solo furto, ma ne erano 4. 4 furti. Adesso già siamo passati a 4 furti. Ma vabbè. Dunque, sei sostanzialmente hai fatto il criminale per un po' di tempo. Cioè, questa criminale? È la... Beh, criminale mica è criminale. Chi commette crimini tecnicamente è un criminale. Vabbè, e poi ti ricordo, caro signor ex criminale, no, ma il nocciolo della questione è ex signor ex criminale, che secondo Cruciani, se tu vieni a rubare a casa mia ti si deve sparare. Io non lo penso, ma vorrei che Cruciani te lo dicesse adesso. Ma che c'entra? Se ti entra in casa questo signore qua, io cosa fai tu, Cruciani? C'ho la pistola, sparo. Ecco, io invece sono contro sparare, ad esempio. Ma io non entro nelle case della CIA, faccio tutto un altro mestiere. Per strada, altro. Lei? Ah, beh, certo, un altro settore quello. Un altro settore. Un dove altro lavora settore. Lei per strada, diciamo? Dove ruba? Comunque, io adesso scusami, oggi. Perché hai sparato sti botti? Spiegami, perché hai sparato sti botti? Perché, ma ho commesso qualche reato. Beh, sì, amico mio, non si può sparare per strada, bloccare il traffico, sì. Eccetera. No, siete mal informato, non ho bloccato il traffico. È sotto casa mia una strada chiusa che non si passa. Ho capito, amico mio, però non i botti sono casa. Illegali, non è che uno. Non si basta. Mandate a fare un sopralluogo e vi rendete conto che non è come dite voi. Io non ho bloccato nessuna strada. No. Scusami, siete mal informati su questo. Ma ho capito, saremo mal informati, ma. Non è che uno fa i botti per strada così, anche non è neanche capodanno. Non si possono fare. Scusami un po', Cruciani, voglio farti una domanda. Dimmi. Io per comprare queste batterie le ho comprate in una pirotecnica, no? Sì, le batterie quelle che si sparano, sì. Sì. Se è vendita libera, no? Vendita libera, sì. Io che reato ho commesso? Ma no, amico mio, devi capire che anche se è una strada privata, non è che uno si mette in mezzo alla strada a sparare i botti perché è stato scarcerato. Non si può fare, però chi se ne frega? È Borrelli, il consigliere regionale, che ha detto, ecco, è il carcerato che ha bloccato l'altra sera pianura per festeggiare con botti abusivi. E con tutti questi problemi che ci stanno a Napoli, dove si spaccia droga, si ammazza persone, viene a guardare a me che ho commesso una stronzata. e chiama Cruciato e cortesia. Cioè, tu dici che è esagerato, se Borrelli si occupasse di altre cose, dici tu, no? Mentre che Antonio sparava due batterie, no? Sì, sì. In sì. un altro posto sì. si stava ammazzando qualche persona o si stava spacciando chili di droga, no? È vero che come dite voi sono un delinquente, va bene? No, ma, speriamo che tu sia un ex delinquente. Ma, però... non ho spacciato droga. Non ho ammazzato persona. Beh, ho capito. Non ho fatto niente. Non sono aderente ai clan. Questo non lo possiamo sapere. Io spero di perché no. Perché tutto questo accanimento nei miei confronti lo posso sapere. Amico mio, però tu sei stato scarcerato. Che cosa ti viene in mente per fare? Ho fatto una ragazzata, dai. Ho fatto una cosa pensando che non portava a nessuna conseguenza. E questo mi servirà per imparature. Che domani se lo dovrei rifare non lo farò più. Ma oggi t'hanno chiamato in questura, la polizia ti ha chiamato? Come lo sapete voi? Amico, ma io non... Sappiamo le cose. Va bene, però non credo di aver ammazzato nessuno e non credo di aver fatto sì, però anche cosa... i furti che a tu me mi fa piacere parlare con te e parlo con piacere con te perché sei una persona veramente che mi stai simpatico, no? Bene. Può ripetere, scusi, questo? Lei ammira molto Cruciani? No, beh, adesso perché sei una persona che mi sei simpatico. Ah, Cruciani, Parenzo no, vero? No, diciamolo chiaramente, mi fa piacere. Allora, lei ammira molto, lei che è stato in galera 4 anni, cioè, ammira molto Cruciani, giù, ho capito bene? Sì. Però, scusami, ripetiamolo ancora, per favore, perché poi ripetiamo anche il suo curriculum vitae. Ma lei ammira Cruciani, corretto? Sì. Non ho altro da aggiungere. Parenzo è un coglione perché si mette a ironizzare su questa cosa qua. Allora, lui è uno che ci mette la faccia. Ha messo questi botti e dice: forse ho fatto una cazzata. Per carità, per me è una follia. L'ho già detto ieri. Per me è una follia mettersi lì in strada a sparare dei botti perché uno viene scarcerato. Ma che roba è? È una roba da te. Niente che mi state crocifiggendo, sì, però va bene, per carità, io sto dicendo una cosa, amico mio, però 4 anni, come hai fatto? Cioè, ma come ti mettevi a rapinare? Con la pistola in mano, immagino di sì. No, guarda che a rapinare con la pistola in mano vuol dire rapina. Invece là che facevi? Gli uffici? No, ho messo la mano nella borsa di una persona e mi sono impossessato di qualcosa. Beh, esatto, furto. Poi rapina, come dici tu, è quando tu impugni un'arma. Io, grazie a Dio, non hai mai avuto in mano. No, perché non sono una persona violenta. Ciao amico mio, ciao, mi raccomando. Per qualsiasi cosa io sono sempre a disposizione, quello che volete sapere. Quello che vogliamo sapere, capito David? Se vuoi sapere qualche cosa, vuoi andare... No, a me basta così, a me basta sapere che lei ha una certa simpatia per Cruciani e quindi magari adesso sappiamo che... Visto perché sta insistendo su questa cosa? Perché è un quadro... perché è un quadro che mi rende tutto più interessante. Ciao, Antonio. La zanzara. È arrivata Baffone. Vai, allo fuoco, no! È venuto, babbo, noi! Ecco te che viva la numere! Viva la libertà! Viva la libertà! Grazie per la vostra collaborazione! A Napoli! Cruciani, per caso vuoi che ti spieghiamo quello che hanno fatto le sardine alla fabbrica di olio toscani? Forse vuoi sapere che le sardine sono un movimento che sta riscuotendo il successo in tutto il mondo per l'interesse che suscitano dei movimenti di questo genere, civili, non incivili come te, quelli della Lega come te? Ma vaffanculo, Cruciani! Sai solo sparare merda sulle cose belle, ma vaffanculo. Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Posso dirti che stasera credo che se devo vedere qualcosa mi vedo Mario Giordano? Cioè, posso dirtela questa cosa qui? Beh, preferisco Mario Giordano a Sanremo. Sei a Bordereau? Sei a Bordereau? No, non mi stupisce. Calmo, sei fedele alla linea? Bravo. No. Sei a Bordereau? Va benissimo. Anch'io lo farei. No, ma che c'entra? A parte che io mi guardo, cosa c'entra? Se sarai ospite, sarai pagato. Non lo so. Quando è giusto che tu faccia il tuo lavoro? No, sono andato solo una volta. Cosa c'è? Ho detto il tuo lavoro. Io stasera mi guardo il festival di Sanremo. Io, se devo scegliere tra Mario Giordano e Sanremo, scelgo Mario Giordano. Il circo è simile. Il circo è simile. Ascolti. Diversi, ma il circo è molto molto simile. Ma il circo. Non dire stronzate, dai, su, non dire stronzate. Invece andiamo però su Radio due Padania. Circhi preferisco quello vero. Invece cioè andiamo su Radio Padania. Andiamo su Radio Padania perché c'è il solito Pagani, il signor Pagani. Dai. Servi di Roma fuori. Bello, bello risentire questa sigletta, bello, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Non Pagani, non vai. Vai. I bambini cinesi che rientrano da Wuhan, dalla Cina, sì, non sono portatori di virus, secondo il pensiero del signor Conte. È veramente ridicolo. Questi arrivano dalla Cina stamattina, domani possono andare a scuola. Perché hanno deciso che chi chiede la quarantena per questi bambini sono dei razzisti. Abbiamo un governo che è una cosa indecente, dire poco. Con qualche nave, magari con qualche piccolo cannoncino che facesse da deterrente alla prepotenza di questi clandestini e dei signori turchi, sarebbe stato il caso di fare. Con qualche piccolo cannoncino, dice. Sì, le navi con qualche piccolo cannoncino sentito. Per fare da deterrente, per l'arrivo dei clandestini. Mamma mia, ridi anche tu perché... In realtà non c'è più però Radio Padania. C'è una circolare per i maestri che dice di non far giocare i bambini provenienti dalla Cina con gli stessi giochi con cui giocano i nostri, capisci? Ma guarda, capisci. Chissà come mai. I giochi possono essere contagiati dai virus, i bambini nostri invece no. Ma questi sono dei criminali. Dai, criminali. Abbiamo un governo di pazzi, incompetenti e criminali. È una cosa incredibile. E siamo razzisti, hai capito? Noi siamo razzisti. Se noi siamo razzisti, loro sono dei criminali. Perché è una cosa indecente. Caccia oltre il fiume. Beh, stupendo, stupendo, ragazzi. Marco da Bergamo, vai. Marco da Bergamo. Marco. Dimmi, Marco, dimmi. Mi sentite? Sì, più o meno ti sentiamo, sì. Ah, ok. No, niente. Allora... Niente. Uno chiama e dice niente. Ci sarà qualcosa di cui vuoi parlare? No, se no altrimenti non diresti niente. Marco, dai. Esatto, hai ragione. Allora, Cruciani, posso dire che anch'io ti ammiro. Vabbè, non me ne frega niente, però se vuoi dire questa cosa ti chiudo il telefono in faccia, Marco. Avrai un argomento di cui vuoi parlare, no? Esatto. Io volevo avallare il discorso di Gabriele di prima. Sì, Gabriele da Genova, sì. Su che cosa? Non facciamo la solita ipocrisia di tutto, soprattutto magari, non so, a quest'ora qua, eccetera, che io ho figli che magari ascoltano anche la radio, diciamo che prenderla nel culo è una zozzeria. Diciamo chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto che è una zozzeria? Scusa, un ancora filosofo. Marco, perché dovrebbe essere una zozzeria prenderlo nel culo? Scusami, ma io conosco tanta gente, donne e uomini, che lo prendono nel culo. Non li considero degli zozzoni, come li conosce Parenzo ugualmente conosce delle persone che amano prenderlo nel di dietro. Ma non è una cosa strana. Ma non è che vedo una persona e gli chiedo che cosa fa ma sotto più o le coperte. Li conosci, no? Non mi interessa chiedere a uno, ma conosco persone, ma non gli chiedo cosa fai sotto le coperte. Sì, mi sembra di una maleducazione. No, le conoscerai gente che la prende nel culo, sì. Amici, conoscenti, gente che lo piglia nel culo, li conoscerai sicuramente. Donne li conosci, ma uomini pure li conosci. Non è che pensi che siano degli zozzoni, no? Quando vedo uno, non è che la prima cosa che gli chiedo, ma neanche la seconda, neppure la terza, neanche la quarta, neppure la quinta, neppure la sesta domanda che faccio, neppure la settima, l'ottava, la nona, la decima. Quando tu vedi una donna e quando tu incontri una donna, a te non ti viene da pensare dopo un po', ma questa qua l'ha mai preso nel culo? No. Non te lo chiedi mai? Una volgarità, no. Non te lo chiedi mai? No. Cioè, tu incontri una donna, non ti viene la curiosità di immaginare se questa qua l'ha preso nel culo? No, ancora, no. No, no, no, no. Come te lo devo dire? No. Ma non lo so, questa è curiosa questa cosa qua. Uno nel suo recondito, un pensiero su... mi fai sentire, a me strano quando sei tu il malato di mente, strano. Vabbè, Marco, allora... Non sessuofobico, ma malato di sesso. Sessuomane, esattamente il contrario di sessuofobico. Esatto. Marco da Bergamo, dai. Allora Marco, stavi dicendo, scusa, che cosa stavi dicendo? Che non è normale prendere il culo. Taglialo, chiudilo, vabbè. Mandalo via. Via, no, arrivederci. Altro, via. Enrico da Reggio Emilia, dai. Allora, no, anche questo un altro blu. No. Simone da Modena, via. Simone dai, da Modena, Marco, via. Marco, dimmi che Simone da Modena. Che stavi dicendo? Ciao ragazzi, ciao. No, Marco, ciao, che Simone, stavi come dicendo? Stai? No, basta, via col sesso, via. No, Simone da Modena. Non decidi guido tu. Guido io, via. Simone da Modena, forza, dimmi, caro. Grazie Simone, dimmi. Una domanda per te, Parenzo, che sei una persona sì, culturata. Dimmi Simone, caro, volevo avanti. Sapere come mai da Del Debbio, sì. Giordano, quei due amici lì, non si parla del fatto che la Lamorgese sta facendo molti più rimpatri di Salvini. Questa è una questione molto interessante, grazie per aver fatto questa domanda. Senti che coglioni, senti che rottura di coglioni. È un a parte tema che vero. Non è vero, che l'altro giorno, posso dirti, la settimana scorsa, Simone, devo dirti che c'era una grafica da Del Debbio, in una cui grafica. Era, sì, c'era una grafica. Come fanno tutte le trasmissioni, anche tu le fai le cazzo di grafiche, no? Quando c'era una grafica da Del Debbio. Si dimostrava che la Lamorgese aveva fatto più rimpatri di Salvini. Per cui, che cazzo dice questo qua, Simone? Se non sei informato, l'altro giorno c'era una grafica in bella mostra. Il titolo sotto qual era? Ovviamente c'era la grafica sotto scritto invasione degli immigrati. Ma non lo so, questo il titolo. Sì, questo sicuro, non lo so. Però c'era la grafica in cui c'erano delle cifre. E allora dicono che la Lamorgese sta facendo molto meglio di Salvini, nonostante può essere, che abbia fatto più rimpatri. Allora, e qual è il problema? Io, se ci sono dei rimpatri di gente che non ha diritto di stare qua, sono contento che li faccia la Lamorgese o che li faccia Salvini. Guarda come difende Salvini. Guarda, sto dicendo che li faccia la Lamorgese o li faccia Salvini. Per me va benissimo. Ma guarda caso li ha fatti la Lamorgese. Ma va benissimo che l'abbia fatti la Lamorgese, non l'abbia fatti Salvini. Ma a me mi sta bene, mi sta benissimo. Il problema non è se se ne fanno o no, il problema è che non se ne parla più ed è curioso come mai in perché la sinistra, te lo dico io perché, te lo posso dire io. Cioè la sinistra non vuole rimpatri, il contrario. La sinistra si vergogna un po' a dire noi li cacciamo dall'Italia. Ma figurati, no, andiamo via dall'Italia. È una legge dello Stato, ma figurati. Enrico da Reggio Emilia, te lo dico io com'è la situazione. Enrico da Reggio Emilia, vai. Ciao, ciao a tutti. Dimmi Enrico. Ma nel senso, voglio solo mettere due questioni, una per i cinesi e l'altra per il sesso anale. Sì. Ma se il rapporto è uguale, che solo in una direzione deve andare nel sesso anale e nell'altro che non si può fare, allora anche la vagina è uguale, da una parte entra e dall'altra parte esce. Quindi è assurdo quello che uno può dire. Ma sì, ma è una cazzata. Anche dalla vagina esce qualche cosa, no? Cioè, per cui di che parliamo? Dell'altro dei cinesi, invece, nel senso, se uno... Sì, però come sei collegato, Enrico? Con quale appare così distanti? No, normale. Ma uno può chiamare per parlare di due temi così distanti? Stai zitto, non capisci. No, perché... Ma voi parlate di palle in frasca anche voi? Ma sì, hai ragione, Enrico, dimmi, dai, hai ragione tu, dimmi. I cinesi, anche se uno può dire i pidocchi, che uno va a scuola, deve comunque andare in quarantena, se no gli attacca, non è un fatto di razzismo, i pidocchi, un fatto di tutela delle altre persone, nel senso, se uno, ma per i pidocchi c'è una terapia molto semplice, che è uno shampoo, la persona deve essere comunque allontanata, deve essere comunque ragazzi, su questa follia di Parenzo, ha parlato chiaramente Burioni, che ha detto hanno ragione quelli che vogliono, non ha detto così, ma ha detto che hanno ragione quelli che tu attaccavi, leggi il tweet, io ho parlato dell'Istituto Superiore di Sanità. Collegamento con Sanremo, stanno pregando per il rosario i cattolici davanti a Sanremo contro i demoni, contro Satana. Angela? Sì. Angela? Pronto? Sì. Dimmi. Ciao Angela, sono Cruciani, come stai? Sono in chiesa. No, lo so, state facendo il rosario, puoi uscire un attimo? Sì, sono fuori. Ah, ecco, bene, no, perché sentivo il rosario da sotto, capito? No, c'è la messa adesso, ma sono uscita... L'avete fatto il rosario? Lo iniziamo adesso, dopo la messa. Ah, dopo la messa. Ma com'è questo rosario su Sanremo? Che bisogno c'è? Che succede a Sanremo? È per dire no alle blasfemie nel mondo della musica, dei media e della succede? Cultura. Che succede nel mondo della musica, scusa? A Sanremo non succede niente. A Sanremo ci sono delle canzoni e basta. Nessuna canzone blasfema. Non c'è bisogno di fare un rosario a Sanremo. No, ma infatti infatti siamo qui a Sanremo per lanciare un messaggio, perché da Sanremo partono tanti messaggi, sì. Lanciare un messaggio, visto che nel mondo della musica, dei media e della cultura c'è la blasfemia? Messaggi. Sì, certo. Dove sta sta blasfemia? Ah, non lo so, ti è sfuggito forse che Bago ha fatto una canzone con il titolo di una bestemmia. Madonna ha detto più volte che mette il crocifisso perché c'è un uomo nudo ed è molto erotico. Sì. Ma anche Sanremo c'è qualcosa che non va? Cioè aleggia lì nel mondo della musica? No, non lo sappiamo. Beh, l'anno scorso Virginia Raffaele ha invocato il demonio più volte. Demonio? Sì. Cioè aleggia lo spettro di Satana lì a Sanremo, c'è il pericolo della presenza di Satana, questo è interessante. No, non a Sanremo, ho detto nel mondo della musica, dello spettacolo, della cultura. Nel mondo della musica, dello spettacolo, della cultura, c'è spesso c'è... Sì, ad esempio Piero Pelù. Non che sarà adesso a Sanremo, però la blasfemia l'ha fatta quando il 17 maggio del 2017, il centenario di Fatima, ha fatto inginocchiare un intero stadio. Durante la canzone del diavolo, durante quella ma canzone il diavolo è il suo roba vecchia, ma ho capito, ma allora anche Zucchero, scusi, che canta solo una sana consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica, allora pure lui bisogna incriminare. Volevo capire da te, tu sai che cos'è lo squirting? No, non lo sapevo. È una cosa fantastica lo squirting, amica mia, è favoloso. Beh, vabbè, ma tu come fai a saperlo? Sei un uomo, quindi non l'ho provato, l'ho provato su di me, che ti devo dire? Ma se ti piacciono le cose schifose, guarda, è un problema tuo, non mio. Ma perché le cose schifose? Scusami, è una cosa straordinaria. Una donna praticamente... è l'eiaculazione di una donna addosso a un uomo, è una cosa spettacolare. No, Angela. La cosa spettacolare è il sentimento d'amore, è il rapporto di amore tra un uomo e una donna che concepiscono un figlio e che danno la vita. Non è una sessualità. Ma c'è anche il sesso, amica mia. C'è anche spazio certo, per c'è anche un sesso che non va sbandierato in una maniera volgare. Però scusami, lo squirting è una cosa naturale in una donna, è un modo che la donna ha di eiaculare. Talmente naturale che il 95% delle donne non sanno nemmeno che esiste, quindi non mi sembra. È naturale invece. Ma magari uno ce l'ha e non lo sa. Invece è naturale avere un rapporto d'amore con il proprio marito. Dunque, stai dicendo una donna che squirta, un uomo che fa squirtare una donna, secondo te non va bene? Secondo me non va bene andare a dire, a raccontare ai nostri giovani queste cose, sarebbe meglio. Raccontare ai nostri giovani cose edificanti. Ma perché squirtare non è edificante? Non ho capito, che cosa c'è di male a squirtare? Una donna che squirta è una cosa meravigliosa, una donna che gode. Secondo me è meraviglioso una donna che concepisce un figlio, che ma perché il godimento, un figlio. Il godimento di una donna no, io non sono contro il godimento, ma non di certo ma sì, si va, Angela, si va sei, a parlare in ma giro sei, ma, cose. Ma sei contro il godimento felice, sei contro, no, sei contro l'orgasmo sposato. Sei contro l'orgasmo sposato. Io non sono contro sì, niente. Ma l'orgasmo fuori del matrimonio può esistere. Io l'orgasmo. Sono a favore all'interno del matrimonio, ovviamente. E fuori dal matrimonio no, non si può godere fuori dal matrimonio. Ma è peccato comunque, è peccato. Secondo fuori la dal matrimonio fede, è peccato. Vabbè, secondo okay. La nostra fede è peccato. Vabbè, se voi volete fare altro, non è, cioè vabbè. Io non ti devo no, voglio solo dire una cosa. Ma ti devo salutare. Ho sostituito Dio con degli dèi, con degli idoli e sono ciechi che guidano altri ciechi. Che vuol dire? Quindi ma chi ha sostituito Dio? Contenti, ma chi ha sostituito Dio? Nel momento in cui si denigra Dio, si fa blasfemia e nessuno chi lo fa? Ma chi denigra Dio? Nessuno denigra Dio. Ma Piero Pelù, ma chi se ne ha fatto inginocchiare un intero stadio perché gli piace la musica? A quello stadio piaceva la sua musica. Cantando è il diavolo. Ma il diavolo non è il diavolo. Nel rituale. Non ne posso più. L'ha detto lui. Ciao. Ciao, grazie. Ragazzi, tiriamo fuori i rosari, forza. Alberto da Verona, vai Alberto, vai, incredibile ragazzi. Sera Cruciani, Parento. Di Sanremo, anche questo c'è, dimmi Alberto. Sera Cruciani, Parento, ma Cruciani, scusami, ma cosa parli di squirting, orgasmi con questi, dai, adesso oggettivamente, di cosa vuoi parlare? E che ne questo? So, dai. Ma dai, vabbè, comunque volevo dirti questo, volevo smontare un attimo le argomentazioni dei naturalisti sul sesso anale. L'argomentazione è la natura ha creato quello per espellere e non per far entrare. È una stupidata clamorosa, non ha nessun fondamento, perché lì sappiamo tutti, o meglio quasi tutti, che ci sono proprio un fascio di terminazioni nervose importante, intenso, no? Ed certo, proprio quello che crea piacere. La terminazione nervosa che è presente dentro l'ano, certo, è evidente che procura un piacere talvolta superiore secondo alcuni. Per cui, ragazzi, ma dobbiamo fare le prossime puntate sulla differenza tra la penetrazione anale e quella vaginale? Dimmelo subito, dimmelo subito, che mi stai spronando, mi stai suggerendo, mi stai suggerendo. Più mi dici di no, dimmi di sì, dimmi di sì che non lo faccio, dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì, no, italiani, più mi dici di sì e più lo faccio, più mi dici di no e più lo faccio, dimmi di sì, dimmi che lo vuoi fare, ti prego, dimmi che lo vuoi fare. Guarda che faccio le prossime puntate sulla differenza di piacere, le terminazioni nervose dell'ano rispetto alla vagina. Scusa Alberto, tu sei a conoscenza di questa cosa qua, delle terminazioni nervose? Sono a conoscenza, ma non è il mio lavoro, io faccio altro nella vita. Dai che inizia il festival, arrivederci, via, devo dare ancora le cose al festival. Domenico da Luca, sta zitto un attimo, sta zitto, Domenico, dimmi. C'è il festival. Ciao, chi se ne frega del festival? C'ho le patatine fritte, gli hamburger pronti. Dimmi, dimmi Domenico, dimmi. Io volevo sapere una cosa, no? Volevo sapere. Dimmi. Il Lorenzo sta lì, è un micio senza coda. Volevo sapere se l'ha mai messo nel culo allo sposo. Questo non lo so, francamente, se l'ha mai messo nel culo alla moglie. Questo non lo so. E con sto questa cornuto, domanda, sto povero domanda, cornuto, chiude. Sto imbecille cornuto, poveretto. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Grande Max, Ciao Rocco, ciao.